spazio content. Eccolo qua, vediamo un po'. Content.org, 16 model. Sono tutti i microfoni. Aspetta, sto cercando di capire. Allora, si parla di microfoni direzionali, però no, ce n'è uno in particolare. Ce n'è uno in particolare. Aspetta, vediamo se mi dà la scelta. Vediamo un po'. Sono un centinaio di microfoni, tutti i modelli, ma roba professionale, tutti, la maggior parte sono tutti americani, Altec, AKG, Neumann, vabbè, ci sono anche i tedeschi. No, ce n'è uno smontato, ma no, non lo so trovare. Vediamo Tour, su Tour. No, Tour mi riporta sempre lì. No, Contents invece mi porta. Allora, su una pagina, tavola dei contenuti, ah, eccoli qui, sì, trovato. Hai visto quante ne sono messo dei microfoni lì? Ah, spaventoso, cazzo. Allora la KG quanti ne ha fatto? Ascolti tutta quella pagina, vai fino ad arrivare alle stazioni radio e ti faccio una cosa. Allora, dove sono le stazioni? Ah, eccole qua, sì. Quale? In quale entro? Aspetta un attimino. Dietro voi se li avete i microfoni, quanti ce ne sono, che è una cosa spettacolare. Che la gente neanche le conosce questi marchi qua. Aspetta, sto scendendo giù, tu vabbè, hai saltato tutto, io sto scendendo, sono arrivato a Risciure, suoni. Allora, guarda un po', ci sono, allora, audio tecnica, dove è preso. Poi ci sono tutte le documentazioni tecniche, allora aspetta, supera i microfoni e arriva qua, dove c'è scritto, allora... C'è anche il Kenwood, l'hai visto? Il manuale di istruzione, le brochure della tecnica, RCA, vacuum, amplificatore e booster, l'hai visto quello dell'RCA, l'amplificazione? Aspetta, andiamo ancora avanti, RCA, microfono, Born, no, dove cavolo c'è uscito quello che stavo guardando prima? Scusami un attimino, allora, Yamaha, non la vedo più, scusami un attimino che... Sto cercando quello della RCA che ti volevo far vedere una cosa. Eccolo qua. Allora. Trasmettitore, Tour. Questo non forse l'abbiamo già visto. Aspetta. Oh! Meraviglia delle meraviglie. Uniden, Model HR2600 President, 10 meters amateur radio. Amateur radio transceiver, user's grid. Cioè, allucinante. Anche qui pubblicizzato il President. Allora, entra su questa pagina, ti guardi, ti fai gli occhi, aspetta un attimo. Dimmi qual è? Mi ha sorpreso trovare il presidente qua, C'è un po' di tutto qui, ma c'è un altro del sito, aspetta, dove c'è scritto? Trasmettitore, scrivi dove c'è scritto, trasmettitore Tour KMPC. Sì, sono entrato, così c'è questa palma all'inizio. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po', sì, lo sto vedendo, ah ecco sì, lo sto vedendo questa svista dei tubi, andiamo avanti, Questi lavori di quelle valvole, del coso, come fanno i lavori e tutto quello, e poi il coso del raffreddamento, l'hai visto le ventole, che ventole c'hanno il raffreddamento? I blower, belli a pompare aria pressurizzata, comunque mi ha sorpreso trovare i presidenti lì, Evidentemente visto come un ottimo apparato, guarda che difficile, vediamo un po' cosa dice. È strano che l'abbiano messo qua, è strano, molto strano, vediamo un po' cosa dicono loro proprio. Cosa dicono loro, cosa ne pensano di questa macchina? Il vice trasmettitore è per uso amatoriale, accesso ripetitore, manuale d'uso è sempre difficile da trovare online. In inglese, cioè, non sapevo che era qui il manuale d'uso di quell'apparato in inglese. Allora entra su questo, RCA tipo BTA 5FM trasmettitore, entra su questa pagina. BTA? E trova? No, RCA quale? La pagina dove c'è tutta quella suite dei microfoni, salendo, io vabbè sono sceso giù, c'era quella che ti ho detto prima, sali un po' su, c'è RCA, c'è scritto RCA tipo BTA 5FM trasmettitore, cliccaci sopra. RCA, aspetta, RCA tipo KS3000 microfono, no? Trasmettitore. Sì, prima del microfono, quello lì, da lì c'è un altro parlante, poi c'è RCA microfono e poi c'è scritto 5FM trasmettitore, entra lì. Ecco, sì, lo sto vedendo. Questa è un'altra bestiola. Guardate le pagine, i lavori che hanno fatto di cablaggio dei fili, quel quadro. Ci hai fatto bene. Ma come hanno piegato i fili, tutto il sagomate, guarda, cioè, ma una cosa, vai a farlo adesso, a trovare un'impiantista che ti fa un lavoro del genere, in un quadro del genere. Adesso sono sassoni agli impianti elettrici, figurati un po', se fa, ma trovare cosa a caso fanno, ma smettila, ma cosa fanno, che non sanno manco dove vanno i piedi, se vedono una cosa poi se ne scappano, no, se gli dai uno solo di quei fili, uno solo, da piegare già entrano in crisi, dai. Vabbè dai, pronta la cena comunque. Grazie per questo sito, no, lo terrò bene qua. No, sto guardando nel presidente, c'è tutto, lo sai? Non l'ho visto il presidente, sto guardando questi amplificatori di bassa frequenza, però non vedo. Come l'hai visto il presidente? No, c'è il presidente, basta, c'è il presidente, 2600. No, è lui, è lui, ho un'idea del modello HR20, guarda, è sopra quello pop stopper, quel microfono pop screen, con la griglia davanti. Trova quello, sali su e c'è lui. Ma dove c'è il TS440? Aspetta. Ma allora, che microfono è? A che altezza sei arrivato? Tu non dimmi. Allora, guarda che c'è, quella Yamaha MC-Serie 3PM Manual, Western Radio Castalli, catalogo della Western Radio del 1929. Due più sotto. Ma superate il microfono, aspetta, volevo vedere, sto scendendo allora. Qua ci abbiamo HPG, Canon, tutti, e poi ci sono tutte le connessioni, l'hai visto? Ci sono i Kenwood, antenna tuning, amplificazione, cavolo, ci sono Sony, sto cercando, Unide, questo qui, no, Presidente 10 metri, questo qui. Quello lì, esatto, bravo. E questo apparato qua tu? Quello lì, no, io ho il Lincoln. Però dico, quello che meraviglia averlo trovato qua, in pagine così speciali, cioè non ci avrei mai creduto. Ma ovviamente è apprezzato, no? Bello questo baracchino, il cacchio. Vabbè, questo c'ha 10 metri pure. Il mio è così, allora, quella è un'altra versione, però siamo lì, capito? No, ma mi ha sorpreso trovarlo lì, capito? Mi ha sorpreso, mi ha lasciato un po' così a bocca aperta, ecco, se devo essere sincero, perché non avrei mai pensato che mettevano quel ricettormitore in mezzo ai miti, e boh, per me non è un mito, però vedi, alla fine te lo trovi lì. 10 uomini, cioè, come apparato radioamatoriale non è dato per CB. Oh, ci sono tutte le specifiche, l'hai visto, ci sono anche le caratteristiche, il collegamento dell'altoparlante, il pannello frontale, tutte le funzioni. C'è l'impianto, anche lo schema elettrico, l'hai visto? Non c'è un bel dubbio, sto cercando di capire, no? Che sono a bocca aperta, che non lo so. Ma che cosa è? No, ma trovarmelo qui mi ha meravigliato. No, ma poi è carino questo sito, l'hai visto come è curato? Dei microfoni ce ne sono un centinaio, penso, l'hai visto? Però roba seria, non mondezza. Qua. Qui non bisogna neanche poi farci dire che sono mondezza questa roba. No, gli americani a livello costruttivo sono ineguagliati, secondo me. Cioè, non c'è niente di meglio, parliamo a livello come costruzione, qualità costruttiva. Poi magari ci sono i giapponesi, se si mettono tra le miniere utilizzazioni non ce l'è per nessuno. Però a livello di costruzione dei materiali, qualità dei materiali, a parte che ce li hanno i materiali loro, vivono su quel fatto lì che hanno i materiali. Però le ditte ti fanno vedere dalla carcassa sino al materiale di costruzione è sempre del top. Sì, ma non dirlo a me, che io li utilizzo continuamente, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, no? E su quella roba, ho scaricato, me lo sono scaricato comunque quel manualino. Sì, ma poi ci sono anche i vecchi DJ americani, sto guardando quelli a valvole, e invece ci sono amplificatori a valvole di alta fedeltà, poi mi volevo girare, poi c'è questo altoparlante, diffusore, della RCA e amplificatori di bassa potenza, amplificatori di potenza, aspetta. Comunque vado a cenare, robe che mi hanno chiamato qui. Ega, sì, senti, guardati, questo del lato, dove c'è l'autoparata, l'hai vista quell'immagine che c'è l'autoparata? Guardati un po' quelle casse caricate a tromba, allucinanti, la costruzione di quelle casse e la costruzione di questi filtri di queste casse, mamma mia, solo vedere il coso, le bobine, ti metti in bobine e boh, mai viste fatte in questo modo, non so cosa possano servire, fatte in questo modo, buh. Vediamo. Io vado adesso a cenare, che è pronto. Sentiamo magari più tardi un altro momento qui. E guardatelo con coso, con attenzione perché è spettacolare. E questa non l'avevo vista questa faccia. E io vabbè. Me lo controllerò con calma adesso. Sentiamo dove, grazie di tutto, grazie delle dritte. Ci ascoltiamo alle prossime. Buon proseguimento, ciao ciao. Ciao, buon tutto anche a te. Grazie anche da parte mia. Ok, ci sentiamo. Vediamo un po' su 10 se c'è qualcuno che vuole entrare nel frattempo. Avanti. Che avanti. Vabbè, dico. Ah, no, era poco fa, qualche minuto fa con Giovanni da Itti, adesso era acceso, ho dato un fruscio, se c'era qualcuno, ci sei tu, ciao già. Sì, anche io ero all'ascolto, infatti ti volevo chiedere quel sito, mi potrebbe interessare. Vedendo. Guarda, è spettacolare perché c'è cosa di vecchia generazione, ma cose allucinanti, a parte c'è cose belle, per chi si intende di alta fedeltà vedere le cose... Vabbè, sta parlando di cose super professionali. Comunque scrivi se sei pronto. Dimmi. Doppie due volte, www.. Però ecco, ti faccio lo spelling della Cagliari, Otranto, Udine, Torino, Ancona, Napoli-Torino.org. Tombola. Esatto. Ciao Claudio, ciao. Ciao. Adesso lo cerco, voglio un po' provvederlo, vai. Aspetta, devi scrivere / contents C Cagliari, quindi Cagliari, Otranto, Napoli, Torino, Empoli, Napoli, Sassari. Allora, non ripetimi l'ultima parte. Allora, iniziamo www.contant.org, poi / Cagliari, Otranto, Napoli, Torino, Empoli, Napoli, Sassari. Cioè, la tua storia di tutti i microfoni, le cose più belle, e poi anche roba di apparati radioamatoriali, eccetera, eccetera, e poi su stazioni radio broadcasting, che ci sono delle cose fuori dal mondo. Papà, ti ringrazio. E beh, là, risolto? Allora, dove vieni a prenderti di quell'affare? Vabbè, ero fuori stamattina. No, non ce l'ho fatta. Già ci vediamo domani, dai. Che stamattina non ce l'ho fatta. Vabbè, andiamo a mangiare, lascio per salutarvi. Ciao a tutti e statevi bene. Ci vediamo domani, vabbè. Io ho già mangiato qua al volo, dai. Ho fatto un panino e mezzo. Una merendina e un arancio, ma ci mangiate un bicchiere di aranciata, se vi basta. E già si è cenato, non adesso la mia figlia. Andiamo a cenare. Ciao, ciao, ciao, ciao a tutti. A domani, Roberto, ci sentiamo domani. Ciao, ciao. Sì, ciao, buona casa. Io mi sono mangiato un kebab Marrakesh e una Coca-Cola. Ti piace il kebab? Sì. No, io sinceramente non mi attira, non mi attira così. Forse non l'hai mangiato nel posto giusto, io l'ho mangiato da marocchino. Allora, non è questo il posto giusto, lo sanno più o meno fare tutti, se vengono qua a farlo, se aprono un'attività, sicuramente non mi fido per la pulizia, già. Ma io dove vado io, mi sembra abbastanza pulito, dico la verità. È marocchino, però è in gamba, non vedo il pulito. Già, allora i cinesi, tutti andiamo a mangiare i cinesi. L'hai sentito l'altro giorno, qualche mese fa hanno sequestrato un po' di cani nel frigo, nella cella del frigo. E tu magari convinto sei mangiando di carne di coniglio o di qualunque altra cosa. Ah, i ristoranti cinesi non mi hanno mai ispirato. Già, io dico sempre, la cucina mediterranea è la più buona del mondo, la nostra in particolare, quella sarda non ha niente da invidiare. Guarda, io tutti gli anni andiamo dagli amici a Genova, ogni anno gli dico, ma dove mi avete portato a mangiare, dove mi avete portato, ogni anno buttiamo soldi, quest'anno mi hanno portato un locale bellissimo, se lo vedi, spettacolare, verso il Piemonte, da Genova ci hanno fatto, la torta c'ha una casa lì questo, e dove vedete vi porto qua, già, l'altra BB, neanche vicino alla cucina nostra, a parte la bontà, il sugo, tutto quanto, diverso. Ci ha fatto assaggiare questi raviolini, infatti non so com'è, si potevano mangiare, ma già, il resto va dei chifu, niente di particolare, perché loro sono specializzati a fare il pesto, queste cose così, ma se li chiedi a cucinare altre cose particolari, a meno che non sono dei chef di alto rango, la cucina loro non dice proprio niente, la nostra, in particolare la sarda, si frega un bel di niente. Soprattutto io che carne quasi non ne mangio, proprio fesserie, mi devi dare altre cose da mangiare, eppure non mi attirano, lo sai, siamo andati anche quest'anno, due posti diversi, anche in tre posti diversi, niente, poi fate di tutta la chitarra roba un bel oliosa, hanno fatto, vedi ti porto, ti faccio assaggiare la focaccia genovese, che la fanno con i funghi, col pesto, sono tipo spianate, cose così, e sfoglia, dai, pasta sfoglia, mamma mia, poi me l'ha fatto assaggiare tipo la pizza, ho detto, andiamola con la pizza, ma ne mangi un pezzettino, ti crepa immediatamente e poi c'hai più fame di prima. Detto già? Prova a rimettere l'indirizzo che non me la va. Sta rimettendo? Sì. Mi dice www.contat.org non è valido. Outant, devi scrivere COU di Torino, ancora napolitorino.org. Ho messo una N in più allora. Tant, devi scrivere, l'ultimo pezzo è tanta, T-A-N-T. E questo qua, quello che ti ha RCA, beacon, microfono, eccetera, eccetera. Aspetta, vabbè io sono una campagna, aspetta un attimo. Preamplificatore audio, Germany, New Mexico, Walker River, Messico. Hai scritto quello che ti ho detto io? www.coutant.org/contents.html, così ti appare direttamente la pagina. Vabbè dai, lo faccio un altro momento, non me lo dà, non me lo vuole dare. Perché ci sono un centinaio di microfoni secondo me, poi tutte le specifiche, per dire anche Giovanni che è abbastanza esperto è rimasto un po' scioccato, a me mi ha impressionato quando ho visto le stazioni radio al trasmittenti, allucinanti, ci sono le cose neanche ci immaginiamo di valo, c'è questa 500.000 watt, se vedi cosa c'ha di alimentazione, di cavi, di corso, fuori dal mondo, poi ci sono amplificatori audio, casse, di roba di altissime prestazioni che li usavano come monitor nelle stazioni radio, poi c'è un altro sito, guardati questo, se ti interessano i microfoni, soprattutto i Tanner, ci sono tutte le specifiche, si chiama www.ericbrown.com/Tanner2 e c'è scritto tutte le connessioni e l'elenco degli apparati, per quando ci sono tutti gli apparati, di qualunque genere di apparati, questo è il sito proprio della Tanner, e ci sono tutti gli apparati e ti dice che tipo di connessione devi utilizzare. Sì, quello l'avevo già visto. Ecco, già. E quello l'avevo già visto. Ce ne sono tantissimi, io molte volte non so cosa fare, mi biglio e mi attacco a internet e mi guardo tutta questa cosa qua. Guarda, internet, prima noi, siccome io sono tipo che mi piace leggere, informarmi, e mi ho riempito la casa tanti libri, riviste, cose c'è, ma adesso con internet c'hai una biblioteca infinita, cioè qualunque cosa, qualunque argomento prendi e vai. Infatti io molte volte sono sempre attaccato a internet, parlo non durante il lavoro naturalmente, quando ho dei momenti liberi e mi spoglio tutto quanto, argomenti di qualunque genere, di qualunque cosa, per non parlare su cosa c'è su YouTube, per dire uno appassionato di musica, mi ho fatto una lista, siccome sono un grande appassionato di musica, di canzoni che mi mancavano, elenchi di cose, sentire vecchie musiche è sempre piacevole. Vabbè, tu non ce l'hai questo rumore sottofondo? Ma ti dico, in questi giorni, anzi, mi sto meravigliando perché c'è sempre il QRM molto ma molto basso, cioè sempre 2-3, normalmente ce n'era un po' di più di rumore di fondo, soprattutto in queste giornate cariche di elettricità, invece è un po' strano. sto guardando un po' Facebook. No, ho capito, scusa. Oi oi oi. Cosa hai visto di particolare? È una foto, che è destra? È una foto di questa tipa, una bella ragazza, con le stelline che scendono. No, poi tu stai diventando una cosa allucinante, tu vedi ragazzine piccoline che si mettono in moto a farsi vedere, stai diventando un bu. Io mi è capitato di entrarci, io ci entro, ci sono su Facebook, però vedo delle cose fuori dal mondo, soprattutto le ragazzine, cioè sta diventando una cosa, cioè neanche le prostitute di strada, cioè sembrano che si mettano in mostra per farsi, cioè si fanno fotografare ragazzine di 14-15 anni per mettersi in mostra per farsi vedere, non si rendono conto, con tutta la gente lì che c'è in giro. E poi utilizzano le foto, capito, per fare i siti che vogliono loro, ci mettono il viso loro, poi li mettono il corpo di un'altra, magari, come hanno già fatto. Ah, lo so, ma poi c'è una marea di maniaci, di gente che anche a me qualche volta giro, sfizio, così per guardare, quando per dire digito il nome di un amico, magari ti appare, scrivi direttamente alle persone, scrivo Gianni, e mi appaiono tutti i Gianni, o Gabriella, Francesca, anche tu che, con la lettera G, e molte volte ti c'è la curiosità e vedi, chi è questo? Cazzo, ma entri in certe cose, certi profili, ti metti male in testa, ci sono delle donne che sono peggio degli uomini, più porcaccione, fanno vedere delle cose, dei commenti allucinati, cose che dici, non sono tipo che mi scandalizzo, ne ho viste di tutti i colori già, però quando vedo una ragazzina di 14-15 anni che si mette a gambe aperte e si fa vedere tutte le parti intime, cioè io al genitore so farmi aprire anche la gente che gli spezzo le gambe, oppure mogli, donne sposate che fanno atteggiamenti un po' fuori dalla norma, diciamo. Le donne sono molto vanitose, vabbè, così sono sempre state. Certo, ci sono quelle serie, ci sono quelle poco serie, però diciamo che ci sono sempre state vanitose, le donne, gli piace farsi fotografare, farsi vedere, farsi fare i complimenti. Ah, lo so, la donna di natura è vanitosa, ma la cosa brutta è che ci sono anche gli uomini che stanno diventando così, che si mettono in costume a petto nudo, a farsi vedere le muscolature, si cambia la faccia, si muore la faccia di un altro. E poi ci sono i cosiddetti maniaci che stanno adescando sempre, facendo situazioni. Ogni tanto infatti se ne sente qualcuna qua di qualche ragazzina adescata e tirata. Me ne stavano raccontando, non so chi l'ha fatto, qua sta se è successo. Di questo tipo un po' ingenuoto si è messo con questa ragazzina che poi alla fine si è scoperto c'aveva o 15 o 16 anni, questa ragazzina è entrata su quei come si chiamano quelli Skype dove ti puoi vedere eccetera eccetera, e questa è iniziata a fare un po' di apprezzamenti, cose importanti, si è iniziata a far vedere cose particolari, lui alla fine ha detto dai fatti vedere anche tu, questa qua ha registrato tutto quanto, gli ha detto se non mi porti i soldi non so quanto voleva, entro non so l'indomani e le faccio vedere in giro e te le pubblico nel tuo profilo. Certo, c'era tipo quel camionista che ha dato un passo da questa ragazza, ha trovato una ragazza, faceva tutto questo, gli ha dato il passaggio. E questo qui gli ha detto se non mi dai 100 euro mi strappo i vestiti, dico che mi hai violentato, mi metto a gridare, siccome era vicino al suo paese dove si voleva sputtanare, ha preso e mi dava, e lui dice che se ne è scappata con un tipo che era morto che l'aspettava. No, lo so, a me tu adesso lo stai facendo scherzando, questo amico mio proprio l'altro giorno stavamo parlando in officina, è successo a lui, questo è di colore, io non sono razzista, tieni presente, però cacchio certe volte devi essere razzista con certe persone. Mi ha raccontato tempo fa, ma non da molto, qualche mese fa, lui la macchina l'aveva venduta un paio di anni fa, la macchina, un anno e mezzo fa, questa macchina, questo vende macchine, commercia, eccetera, eccetera, l'ha venduta a questa tipa di colore, questa macchina, e sta di fatto che gli continuavano ad arrivare, ha fatto il passaggio, tutto quanto, e gli continuavano ad arrivare le contravvenzioni, perché alla fine l'ha chiamata, vieni qua, andiamo, adesso glielo faccio io il passaggio perché non si fidava più. Vieni qua e ti fa, ha preso a voce, ti ha detto presentati qua, se tu non ti fai vedere qua vengo io a cercare, è venuta tutta quanta graffiata, si è messa a strillare in mezzo alla sala, mi ha picchiato, tutta strillando, gli ha fatto passare la voce, la paura come che l'avesse picchiata, lui dice io non mi sono permesso né dirmi niente, questa è impazzita strillando come una pazza, c'è tutta graffiata, e ci ha messo a mettere le mani addosso strillando come una scema. Ti mettono nei guai. Ti sto dicendo, cazzo, allucinante. Stanno diventando una cosa. Poi, molte volte ci scandalizziamo, dice, è violentata. Io, naturalmente, non si parla neanche a pensarci di violentare una persona. Però quando tu vedi una ragazzina con la minigonna che gli arriva all'altezza di sotto, tutta gatta, truccata, tatteggiata, e passa in una via dove non ci dovresti passare, alla fine qualche scemo, qualcuno che ha qualche pensiero brutto lo trovi. Non c'è andare, dico. Vabbè. Lo so, ma sono le scontate adesso le ragazze, le luci, non sono più come prima, vabbè. Prima per conoscere una ragazza ci devi stare appresso un anno, cavolo, adesso sono loro che vanno appresso i maschi. Già, ti dico delle cose, io, vabbè, mia figlia è ancora piccolina, ma non c'era ancora l'idea di uscire così, però devi stare attento, cioè, mio fratello c'ha il figlio suo, c'ha 17 anni, maschietto, ma hanno fatto delle feste, dice, l'anno scorso hanno fatto una festa, guarda, tu dirai, non è possibile già, mi ha detto Danilo, mio fratello, lo conosci Danilo, lui abita a Montebianchino, e hanno fatto una festa, il figlio è appassionato di giri, diciamo, fa lavoro anche nelle discoteche, adesso sta lavoricchiando, gli fanno fare dei lavori, e ha fatto tutta gli amici, c'ha una cerchia di amici, ma fai che ci siano 20-30 persone, 50 persone, amici, magari un po' meno amici, e ha fatto la voce mia, a Capodanno venite qua a casa mia. Tu dice, già, cosa è arrivato di gente a casa di mio fratello? Dice, arrivavano le ragazze con il taxi. Dice, c'erano più di 300 persone. Alla fine, dice, tra appunto tutti quanti in volo, ha dovuto chiudere la porta. Dice, arrivavano i genitori, pigliavano e mollavano le ragazze a luna di notte, le portavano. Dice, quello che vedevi, dice, questa ragazzina era una cosa, ne ha fatto entrare una cinquantina. Dice, era una cosa da vergognarsi. Gente cotta, che non poteva. Ma ragazzine di 15-16 anni. Dice, una cosa, si è sparsa la voce di questa festa di mio cognome, di mio nipotino, di mio nipote. Addirittura c'è gente che ha venduto i biglietti, no, io entro per forza, a me mi hanno fatto 10 euro, mi hanno detto che si paga 10 euro, io ho già pagato, non so quanti biglietti, tanti clienti ha pagato per entrare in questa festa, in casa, festa, era una cosa di Capodanno quando si fa un cenone, una cosa del genere, lui si è invitato gli amici suoi, poi l'amico ha invitato quello, l'amico dell'amica, alla fine era il biglietto, basso, meno male, mio fratello c'aveva degli amici nostri, il cugino della moglie, gente che è Jasmine, Antonello, già lo conosco, perfetto. Che già si difende Antonella. Dizia è entrata a far legna, adesso sta sbatterci fuori gente. Secondo dice, ma erano ragazzi non tanto grandi, ma dice c'erano più di 300 persone. Le macchine ci arrivavano in tassico pieni di gente, tutti per entrare in questa casa. Lascia perdere, guarda. Che quando ha fatto la festa a comprare, il centesimo compleanno, mia figlia l'aveva preso. È presente quel circolo ferroviario, quello che c'è però dopo il ponte di Santa Maria che fa feste eccetera eccetera, abbiamo preso quello lì perché c'era un grande spazio, ha invitato un sacco di amici, però selezionavamo le persone, praticamente noi avevamo tutti i nominativi delle persone, eravamo al cancello quando entravano le persone e dependevamo, chiedevamo come si chiama e dependevamo il nome, se non corrispondeva a quei nomi lì chiamavo dentro e vedevamo se era invitata la persona, insomma. E niente, se no le mandavamo via, l'unica che questo qua paglia Bobo Marri, un negro tutto quanto, quel cappello tipo Bobo Marri, così vuole vedere la festa, dove sarà la festa privata, ma io non faccio niente, mi diverto e basta, no tu non entri, ciao. Già lo so, ma tu fai conto che tu hai fatto un cenone di Capodanno, normalmente fai 30-40 persone, ma esagerando, 30 gas, anche se lui c'ha la casa grande, c'ha la taverna. Lì se ne sono venute più di 300 persone, non riuscivano più a fermare la gente, alla fine ne hanno presi tutti in blocco e ce l'hanno sbattuti fuori. Dice, continuamente arrivavano con i genitori, poi i genitori dice, mancanti, prendevano, cioè a portare la figlia di 14-15 anni, a luna di notte la portavano e la lasciavano di lì, senza sapere di erano dentro. Perché ci sono genitori malefreghisti, ma magari non li bari vero, perché si liberano e loro vanno dove vogliono, poi capito. E invece lui, vabbè, mia figlia adesso c'ha già 20 anni, dai, non è che sia una ragazzina, e sa quello che vuole, non è che... Però l'abbiamo, molte volte siamo andati a controllarla noi quando lei usciva. sono sempre spaventato, già in 30 anni è già maggiorenne, diciamo, è abbastanza indipendente, ma devi attento sia alle donne che ai maschi. Molte volte è meglio avere la fortuna che si trovi subito un ragazzo e almeno sai con chi esce, però quando vai in giro con le amichette, le cose così che se ne vanno e non sai dove stai andando, che questo è sempre preoccupante, poi magari bevono, li fanno assaggiare qualcosa e rimanere tutti i pensieri brutti in testa. Vabbè, dai, è una questione anche di fortuna, Robe, è una questione anche di fortuna, di serietà, di cose. Ma tante volte l'educazione che si dà, anche là, se c'è molto manifreghismo da parte dei genitori, ti ribollano così a luna di notte a 14 anni, vuol dire che poi però non ha fatti nulla. No, io ti dico solo una cosa, hai visto che siamo noi a Platamona? Quest'estate c'erano 5 ragazzi, sono venuti con una ragazza soltanto, c'avevano una busta grande, trasparente, ci sono state non meno di una ventina di lattine di birra e più altra cosa, altre bottiglie, non so cosa c'era niente, più c'avevano un po' di panini, ho visto un'altra busta, roba da mangiare, altre cose e l'acqua. Questo è successo verso, per conto, verso le 11:30 di notte, un'unica ragazza, tiene presente, e 5 ragazzi. Verso l'una e mezza di notte, noi eravamo fuori, molto molto così, è venuta la mamma di questa ragazza e gli ha portato il cambio. Tu fatti la conto che tipo era la mamma di questa, ma stavamo una ragazzina, secondo me non aveva avuto più di 15 anni. Io, per carità, se ne sbatte un mezzo di genitori, no? Non riguarda i figli. E tu da questo che mi stai dicendo, che le mollavano lì a 14 anni, che c'è l'una di notte, allucinante qua. E tu fatto per essere associato, quando hai giunto ai salienti, è giunto la crisi. No, no, diciamo da solo non riesce a gestire la situazione, meno male erano in tre, diciamo tre adulti, hanno iniziato a sbatterci fuori gente, che poi prima il cancello era, insomma c'era il cancello elettrico, prima apriva un po' di gente, poi il cancello prima di chiudersi ci prega qualche secondo, ne entrano una fiore, a fine dove state andando di lì, io sono amico di quello, di amico di, non di Alessandro, Alessandro è mio nipote, amico di Francesco, quello, è Francesco, ma a me mi ha detto Francesco che qua c'è la festa, noi abbiamo parlato, entriamo per forza, ma è fatti sì, sto dicendo, era una cosa da paura, a me se capita Antonio l'ho fatto lo raccontare, se dice se tu non ci fossi stato presente non ci credevi, dice era una cosa fuori dal mondo, venivano col taxi carichi di gente, ma non uno, 10 taxi mi sono saliti, dice pieni di gente. Ragazzi, sarà stato contento tuo fratello, cosa gli ha detto al figlio? Non l'ha picchiato. No, ma il figlio l'ha mortificato, infatti ha detto, ma è più una cosa del genere, perché lui ha chiamato un paio di amici, ha spasso la voce con un paio di amici, poi venite, salite dopo a ballare, ci facciamo, mettiamo un po' di musica. Ma poi quelli che sono rimasti, Gianni, ti è presente, quelli che alla fine saranno state 30 persone che sono rimasti di, alla fine se ne sono andati bucati in terra, c'erano, diciamo, delle ragazze cotte da non poterne più vomitare, poi dice quello che si hanno bevuto, fumato e cose del genere, diciamo, che alla fine poi non riuscivi più a controllare se non uscivano fuori, andavano a rimettere, a fare, dice. Alla fine era una cosa fuori dal mondo, piangendo, che poi venivano le crisi di coso, di paura, di ansia, di panico. Poi ti spostavo tutto col vomito, vabbè, allucinante. Sono ragazzi, sai poi come fanno, sai, se erano tu vitti uno e gli altri vitti all'altro, l'altro vitti all'altro, e anche nei matrimoni succede così. Vabbè, ma il matrimonio deve c'è la sala grande, perché quando hanno fatto tre cose, con la festa che hanno fatto Salis, Cosimo Salis da poco all'Ariston, che hanno preso l'Ariston come discoteca, che non c'erano meno di 3.000 persone, la sala era omologata per 700, gli hanno dato l'autorizzazione, in Fulvio era nei 2.500 che volevano entrare per forza. Se succede qualche fumo, attacco di panico, per dire succede qualcosa, uno apre un estintore, esce un po' di fumo, muoiono tutti di lì dentro, non c'erano né uscite di sicurezza né niente attive, non c'era servizio d'ordine, che c'erano 4 gatti. C'è andato mio cognato come vigile del fuoco a vedere, dice una cosa mai vista, dice come hanno fatto a dargli l'autorizzazione a fare una cosa del genere. E poi non c'hanno norme anticini, non c'hanno qualche cosa, succede un incidente, una cosa non c'hanno, perché è improvvisata come festa, capito? E l'hanno fatta anche una dove c'è il circo. Sì, al circo ne hanno fatto diverse. Il DJ, quello del circo, quello di, come si chiama, che è venuto al circo, che ha fatto un'ora, tiene presente, è andato a cena da mio cugino, da mio nipote, da mio fratello, l'hanno invitato, si sono conosciuti, quello che lavora, come si chiama, M2, adesso non mi ricordo il nome, è andato a cena da mio cugino, da mio nipote, da casa di mio fratello, per un'ora al circo gli hanno dato 3.000 euro, hanno fatto tre diverse giornate e tre diversi generi musicali. A questo DJ di Radio M2 gli ha dato 3.000 euro per un'ora di programmazione. E poi che presente sto usando di tutto, perché ti danno a dormire, a mangiare e tutto, non è che ti mangiano i marini, no? Cioè ti portano al miglior ristorante, in albergo, al motel marini, non è che ti mandano in pensione o dentro la tenda del circo, no? Sì, ma io non capisco, non riesco a capire cosa c'è da col circo, non riesco a vedere, stanno facendo un mixage di sangue. Affittavano le tendune, loro chiamavano tre tendune, e quelli per lì dove mettono lo zolo e cose del genere, l'hanno affittato come discoteca, perché non c'è fino agli anticorpi domenica, non l'hai visto? No. Domenica fanno due spettacoli, uno alle 5:15 o alle 5, l'altro alle 9:15, e c'è Pino e gli Anticurpi insieme al circo, fanno uno spettacolino loro, ma gli dicono te vieni qua, ti do 500 euro, 1000 euro e ti allieti la serata, fanno un po' di intrattenimento. C'è da un bel circo, di solito non dura così tanto, vero circo? Mi sembra, non ti vorrei dire cosa, dal 12 di dicembre sino al 22 rimane quel circo, cioè più di un mese, ma infatti normalmente il circo dura 10 giorni, fai 15 giorni quando c'è un bel successo, però qua sono venuti poi altri 10 giorni prima perché dovevano piazzare, cioè un mese e mezzo quelli sul circo, di più. 10 giorni, una settimana al massimo, 3 giorni, 4 giorni al circo. Questo c'è da un bel, ma boh, deve essere un circo povero. Io l'ho visto, sono andato a vederlo con Marco. Mi ha maledetto, dice che non era così brutto pure. No, non era brutto, le prima c'erano domenica mattina, sono salito al quadrato per leggermi il giornale, che c'erano tutti gli animalisti, con una pioggia, e loro sotto la pioggia con l'ombrello, c'avevano le maschere tipo quelle di carnevale in testa dell'orso, e poi c'avevano queste pettorine con i leoni disegnati dentro le gambe. E stavano distribuendo dei volantini, c'era la polizia, manco un garante si diso, sono stati via a guardarli, però non se ne sono scesi. Era stare vigili, ambientalisti e tutto, guarda, io dico ci sono cose molto più importanti, questo capo di ambientalisti per certi versi c'hanno anche ragione, ma lasciamo, questa è solo gente per far confusione, molte volte li trovi così per farsi mettersi in mostra, lasciamo perdere, perché te l'ho detto l'altro giorno pure, rovinano certe cose, certe attività, si mettono in mezzo e creano lo scompiglio. Poi ci sono le cose giusto che vanno rispettate, però. Cacchio, allora non dobbiamo mangiare più carne, dicevo chi dice che non devi toccare la carne di quello, non devi fare quella, certo ci sono, se vado a ammazzare gli elefanti ne taglio il corno, quello sì che non va bene, però cacchio, loro si attaccano a tutte le fesserie, però poi se c'è la medicina che gli dà, come si chiama, effetti collaterali perché non abbiamo fatto le prove, io dico sono sbagliate, bisogna cercare di evitare il più possibile le prove sugli animali, e allora cosa fai sull'uomo le prove per certi farmaci? Certamente. Purtroppo per studiare si devono fare certe cose, certo non mi piace la vivisezione, queste cose qua le contesto anche io. Purtroppo ci sono le esasperazioni da tutte le parti, però io dico se tu fai degli esperimenti per un farmaco, per un'allergia, per vedere gli effetti collaterali, prima di provarlo sull'uomo, prima fanno le prove di laboratorio eccetera eccetera e vedono come reagiscono a livello chimico, dopodiché devi fare la prova su un essere animale prima, e dopodiché poi ci sono le persone, le cavie umane, quelli che vengono pagati per fare gli effetti, delle persone che lo fanno per cosa, per principi loro, non lo so per quale motivo, Purtroppo bisogna fare queste cose. Per certi tipi di sostanze, per dire, soprattutto quando sono dei farmaci di nuova generazione, di nuova concezione, è da provare per fare. Certo, se tu ti metti a torturare gli animali per il gusto di torturarlo, così non fa, sono il primo a dirlo. Però se tu devi provare un farmaco che siamo sicuri che è quasi giusto, lo metti sull'animale e gli fai la prova, per me non c'è niente di normale. Certo, se ti metti a fare una tortura dell'animale per vedere quanto dura l'agonia, perché hanno fatto anche di queste cose per vedere il confronto per quanto Gesù Cristo è durato prima di morire, hanno fatto anche quelle cose lì, hanno preso una scimmia e gli hanno fatto le stesse cose che hanno fatto a Gesù Cristo con i colpi che gli hanno dati, hanno calcolato la pressione del sangue, il cuore, ghida, quelle sono fesserie, non esiste. Però se tu devi provare una medicina nuova, un farmaco per la pelle o per qualunque, per lo stomaco, cosa del genere, o per qualunque altro genere di malattia o non lo so, è normale che venga provato non sull'uomo direttamente, ma prima su una persona che si avvicini, una persona, un essere che si avvicini il più possibile all'uomo. Per cui è così il progresso. È sempre stato, e penso fino a quando non esisterà un robot o qualche macchina che riesca a sostituire l'organo umano, non lo so, non si continuerà a andare in qualcosa. Mi, Salvatore Branca mi ha mandato il messaggio. Ciao Roberto, tutto bene? La stanza rinevica. Se me lo saluto anche da parte tua già. E io dici che sono in radio con Mario. E dove? In Austria c'è stato il riferito, Rubi. In Austria? Ha cambiato totalmente modo di vivere. Adesso mi ha detto cosa sta facendo, non è mai come le ricordo, perché è entrato in questo affare, prima in questo affare d'albergo, in cosa del genere, poi un'attività di elettromeccanica, poi adesso dice si vuole mettere, aprire anche un'attività di prodotti saldi. Aspetta che lo saluto un secondino, già gli mando l'email e dico, e poi dico, dammi un minuto. Vai già. Ehi, ehi. Aspetta, ma non è partito con tutta la famiglia, perché il figlio è qua. Allora, è partito con tutta la famiglia, però probabilmente il figlio, quello più piccolo, è rientrato perché qua c'ha l'ex moglie, dai, forse c'hanno dei problemi, vabbè, non diciamo altri particolari, dai, mi hai capito comunque. Ah, sposato, perché quello? Sposato con figli. È piccolino. È più piccolo, piccolino, cioè avrà 25 anni, 23 anni, dai. C'è anche, non so se un figlio o forse una figlia, una bambina di un paio di anni, ha avuto grossi problemi con la moglie, le ha fatto di tutti i colori, vabbè. Mi dispiace per lui perché è un bravo ragazzo, ci ha fatto una brava persona, ha avuto una grandissima delusione per colpa di questa scema. Ragazzo. Lui aspetta il figlio, è possibile che se ne ha il catechismo a Sant'Agostino? Sì, era possibile. Anche lui è l'unico della famiglia che non è uscito mormone, cristiano cattolico. Ah, sì, allora è lui, allora, perché ho chiesto anche a Marcolino, siccome c'è Marcolino lì che stava facendo, siccome lì al Buon Pastore dove lo stavamo mandando, chiedeva delle cose assurde, che andassero anche i genitori, il sabato noi stavamo lavorando, è un casino, insomma. E allora l'abbiamo messo lì a Sant'Agostino che va una volta alla settimana, adesso il sabato si ascolta la messa e dopo praticamente è libero là. E la domenica se dobbiamo fare qualcosa lì la possiamo fare. E niente. E lì l'ho visto lì insieme alle signorine del catechismo, quindi ha detto ma quello è il figlio di Salvatore, non molto niente adesso alla mente, io l'ho visto qualche volta, però sono molto fisionomista, quindi mi ricordavo che era lui. L'ho visto da poco. No, non da poco a poco, l'ho visto mi sa l'anno scorso. Aspetta, salutami, mi ha detto, salutami tutti gli amici della CB, qua siamo già da 3 giorni che nevica, ora non bastano le gomme da neve ma abbiamo montato anche le catene più tardi, scarico un po' di foto e me le manda. Dice l'altro giorno c'erano meno 12, mi ha detto. Quindi il suo lavoro non lo sta svolgendo più, Roberto. No, ma lui era andato a Calangiano, dove ha saputo che si era trasferito qualche anno fa, c'è stato un paio d'anni a Calangiano e poi ha mollato tutto. Sì, lo sapevo che era lì. Niente, invece non è andata bene, ma purtroppo, bravissima persona, però Salvatore deve stare attento, ha fatto dei movimenti che non doveva fare, dai, dei passi troppo grandi, gli è andata un po' maluccio, alla fine ha mollato tutto per evitare, ha cambiato tutto completamente, non gli sono andate male delle cose, dai, non diciamo altro. Sì, lo so, conosco tutte le cose perché ci parlavo questa volta, quindi conosco tutti i suoi movimenti, me l'ha detto, una bravissima persona senza ombra di dubbio. E purtroppo ha avuto a fare troppo, era meglio che stava dove era, dove ha sempre lavorato anche il padre, e gli sarebbe andato tutto bene, invece ha voluto ingrandire, ma forse solo per dare la possibilità ai figli di avere un'azienda più grande, eccetera, eccetera, e purtroppo non è andata bene. Allora lì andava tutto bene, era tutto tranquillo finché il padre era in vita. Come è morto il padre, entra il problema dell'eredità, come succede sempre, si sono scannati. Vabbè, non è che si vuol fare. E quindi lui, là in Austria, cosa stava facendo, mi ha detto. Allora, non ho capito attualmente cosa sta facendo, perché stava anche studiando la lingua, stava andando a lezione di lingua. Allora, là ti spiego una situazione. La moglie del figlio, del grande, di Ignazio, il padre credo che sia il direttore di un albergo o qualcosa del genere, di lì ha coinvolto, dice venitemene qua, ci sono delle attività, eccetera, eccetera, e di lì ha trovato posto per la moglie di Salvatore, da inserita, non so cosa cavolo fa, se fa tipo guardarobiera, quelli che lavorano, che distribuiscono la biancheria e cose del genere. Poi Ignazio non so cosa sta facendo, in che ditta stava lavorando, e lui era entrato in questa ditta, certo nel campo della meccanica, tipo rettifiche e cose del genere, però ho sentito che voleva aprire, dice che ha portato un po' di prodotti sardi, ha visto che c'era la possibilità di lavorare, ha detto mi apro una seconda attività di questo genere qua, nel senso per arrotondare, mentre il figlio, il più piccolo, Ignazio, cioè Ignazio Claudio, quello non so cosa me l'ha detto, però non so cosa stava facendo. Ma anche il piccolo è sistemato là, allora? Sì, tutta la famiglia erano partiti, sono partiti il 15 di maggio, sono passati, ma hanno svuotato tutto, già ne venduto tutto, proprio per cambiare tutto completamente, cioè quando uno cancella il passato, mi hanno venduto tutto, pure le ultime fesserie, quadri, armadi, mobilia, la casa, tutto si è venduto, si hanno preso tutti i soldi che si hanno fatto e si hanno portato di là per investire, si hanno preso una casa bifamiliare, adesso non mi ricordo. Ma ci siamo sentiti, ci sentiamo molto spesso con lui. Ma anche per telefono? Per telefono lui c'ha il numero internazionale, mi ha dato un numero, però non l'ho mai chiamato, mi ha mandato il messaggio a Natale, anche a Capodanno, io gliel'ho mandato via Facebook, e lui me l'ha mandato con un numero internazionale. No, a Natale no, perché lui è mormone, non ci crede. No, che già si credono a Natale, no, loro sono come noi, loro però applicano il Vangelo, il primo Vangelo, l'Antico Testamento, non il Nuovo Testamento, per cui loro, se tu vai a bere con lui al bar, lui non prende né Coca-Cola, né caffè, né tè, niente, lui si può prendere un'aranciata o della familiare, succo di frutta, lui tutte le cose, birra, cose del genere, non le prende assolutamente, proprio di quelli molto molto credenti. Salvatore è in una famiglia molto cristiana, il padre era cristiano, proprio di chiesa, roba la gente di chiesa, è come me, mio padre era catechista, ha fatto praticare il catechista, la relazione cattolica, eccetera, eccetera. È la stessa cosa che io andassi adesso a fare il mormone, a me più di una volta mi ha detto, guarda che sono persone veramente brave, ho detto, non lo metti in dubbio, non me le mandare a casa Salvatore, che io tanto credo nella mia religione, ognuno io rispetto quella di tutti, però io credo nella mia, ma solo per sentirli, solo per sentirli, ho detto non me li mandare, me li ha mandati, e allora un giorno gli ho telefonato e ho detto Salvatore, gli dico una cosa, me la mandate, ho detto abbiamo altro Salvatore, ho detto guarda a me non interessa, glielo già detto Salvatore, non me ne vogliate, però io ho la mia di religione e voi avete la vostra, io rispetto la vostra, voi rispettate la mia, ho detto Salvatore non me li mandate più, se vuoi che si mantenga l'amicizia parliamo di altro ma non di religione. No, io di lui addirittura di Salvatore siamo come fratelli, diciamo, abbiamo un ultimo rapporto, ci siamo subito, diciamo, conosciuti da poco, io al padre lo conoscevo da quando ero piccolino, era conosciuto per il suo lavoro, mio padre lo conosceva, bravissima persona. Non, diciamo, io sono cattolico cristiano. cristiano, diciamo cattolico normale, no, come no. Però tieni presente già, non è tipo testimoni di Geova o di Isaia, di Gussi, loro hanno le stesse regole del Vangelo nostro, cioè più antico, nel senso cose che noi non esistono più vengono cancellate, però loro credono a tutte le cose che crediamo noi. Infatti in un diverso modo, cioè il progresso per loro non esiste, cioè tutto i mezzi di grande, cioè tutte le cose nuove, per loro potrebbero farne a meno, potrebbero vivere. Infatti i veri mormoni americani, quelli vivono ancora con i carretti, coltivano la terra, hanno una concezione del terreno completamente diversa dalla nostra, diciamo come era prima che avvenisse l'automazione, diciamo le macchine, eccetera eccetera. Loro vivono proprio da quello che gli dà la terra, eccetera eccetera. Possono avere, per quanto ho sentito io, diverse mogli, però questo non gliel'ho mai chiesto a Salvatore, perché secondo me Salvatore forse l'ha sposato perché ha due figli diversi. Non so se lo conosci l'altro figlio, tu c'ha tre figli in tutto. No, non lo conosco, non l'ho mai visto. Allora, i due figli, Claudio e Ignazio, sono uguali a lui, se li vedi sono precisi. Poi c'è un altro figlio che si chiama, mi sembra Alessandro. Allora, Claudio. Mi sembra che si chiami Alessandro. E questo fa proprio il coso, come si chiama questi che vanno in giro? È stata una vita in Canada, e di età è un po' più piccolo di coso, di Ignazio, una via di mezzo tra Ignazio e Claudio, però è tutto uguale alla mamma, quello lì. È un altro genere, un'altra razza, si vede. Guarda, assomiglia più alla madre, cosa vuol dire? Anche io ho due figli, uno assomiglia a me e l'altro assomiglia alla madre, ma non per questo sia di diversa donna. No, già, secondo me è così, che io sono andato, hanno fatto anche il battesimo, perché l'hanno battezzata la mamma, secondo me lei fa parte di queste, vabbè sono cose non so come lo dire, cioè fa parte di queste, come si chiama, confraternite, ed è stato lui che si è coinvolto in questo discorso qua, l'hanno coinvolto. Ah, boh. Lo so, sono così. Ma io guarda, ho conosciuto una coppia che abitava nel palazzo di mamma, andavano d'accordissimo. Un giorno è andata a questa qua, diceva, e c'era solo lui, il marito. Il marito è una brava persona, anche troppo bravo. Beh, questi qui l'hanno convinto andare alla chiesa di Geova, eccetera, eccetera, questo qua si è fissato e hanno cominciato i bisticci tra moglie e marito, perché lì andavano in chiesa tutti i sabati, tutti due insieme, ecco. Una coppia giovane, una coppia molto giovane con un bambino, eccetera, eccetera. E stava andando male anche il matrimonio per questa cosa. Alla fine la moglie ha detto, tu scegli o me o la religione tua, perché alla fine non ha più sopportata questa cosa qua, capito? Lui era talmente fissato, gli stavano inculcando un sacco di roba. Già lo so, ma quelli testimoni di Geova lasciamo il perdere. Io c'ho un amico mio che ne ha mangiato tutti i soldi, l'hanno fatto alla moglie, prima ha convinto la moglie e poi ne è uscito, lui era debole caratterialmente perché ha avuto delle situazioni tossicodipendenti e cose del genere, quindi con la scusa di aiutarli ogni mese doveva dargli le denari, alla fine era diventato, c'ha la lavata mensile lui, perché questi dicono sì io ti ho aiutato, però tutti quanti partecipi, guarda, vabbè non parliamo di queste cose qua. A parte non si dovrebbero dire in radio, però preferisco non parlare perché ognuno la vede a modo suo, però quello è fatto per altri scopi. Mentre la cosa di quelli di Salvatore sono come noi, solo vedono la religione in un modo diverso, però ognuno ha casa sua. Infatti con me lui lo sa, forse perché avevamo un rapporto diverso, non si è mai permesso di dirmi niente. Lui una volta solo mi ha detto, come si chiama? Se andavo, avevo necessità di fare delle lezioni d'inglese per mie figlie e cose del genere, me le faceva fare gratuitamente, perché c'erano questi, loro sono quasi tutti americani. Lo so, ci va mio nipote alle lezioni d'inglese, però cercavo sempre di inculcargli le cose, capito? Mio nipote va alle lezioni d'inglese lì. Sì, sicuramente ti insegneranno molto meglio di qualunque altro insegnante di questi, quelli che non sono di lingua madre, dai, loro sicuramente hanno più padronanza, riusciranno sicuramente a darti un po' di informazioni più di qualità. Poi per il resto, poi io con lui ho un ottimissimo rapporto, Salvatore mi ha detto vieni quando vuoi, sei ospite a casa mia, me lo dice sempre, tutte le volte che ci sentiamo, sali su da me, sei ospite, e lui la stessa cosa è per me. cioè da parte mia, quando vorrebbe venire lo sa. Adesso forse dice deve salire, doveva venire prima a novembre, che doveva fare roba con l'avvocato, poi non so che problema ha avuto, dove lavora la moglie, perché dice si è ammalato uno e non poteva prendersi ferie, eccetera eccetera. Forse dice a febbraio, se ce la fa, riesce a farci una scappa, perché deve portare della roba che gli avevo dato, cioè gli avevo dato. Mi ha venduto della roba e mancavano dei particolari, un attrezzo che c'aveva lui in officina. E poi deve portarmi un'altra cosa, devo dare a un'altra persona. Motore del gommo. Scusa, non ho capito. Scusa, motore del gommo, dei mancavalini. Anche l'elica, vabbè, quella sarà persa, perché figurati che gentaglia, mi ha dato il numero di telefono di questa persona al telefono, e questo ci ha negato di tutto, che non era vero, che, perché Salvatore quando era il gomone gli ho fatto prendere io tutto qua, lui c'era il motore come il mio, e c'era l'elica di servizio, diciamo, di scorta. Mi ha detto, quella te la date, tanto non me ne faccio niente, me l'ha detto già dall'inizio, e così lo ha dato Mulinelli a mio fratello, che tal, chi è il valore, mi ha detto, mi chiamano, questo è di, non mi ricordo se è di Uscili, di che paese è. Ecco, l'ho telefonato, siccome c'erano due numeri, con questo nome c'erano due, ho chiamato prima uno e non era quello, poi ho chiamato l'altro, ho detto uno e là, oh no, gommone, noi non conosco nessuno, insomma non so cosa di mai, ma diffidente. Sono sempre detto che quello lì, poi alla fine ha detto, lascia per, ha detto Mario, se viene lui, se lo arrangia lui. Guarda che non sei uscito di radio. Ho detto che ha avuto una buona forza di volontà per affrontare. Sì, già lo so. No, ma guarda, Salvatore avrà tanti difetti, nel senso, il difetto più grande è che è troppo generoso molte volte e lui si fida troppo male delle persone, si è fidato delle persone e ha fatto delle cose che magari da quelle persone non doveva dare, per cui ha preso anche delle scottature, tra cui anche da parenti. Poi ci sono stati tutti i problemi di altre cose, sommati, ha fatto una scelta di vita, anche se lui ha detto che lui, il coso suo di rientrare quanto prima, quando si sistema tutto quanto, perché lui è sempre attaccato. Non sai quanto ne manca poi gli amici qua in radio, a frequenza, me lo dice sempre, cazzo. Beh, è stata una cosa non voluta, è stato costretto a farla, quindi non è una cosa come qualcuno a voi che la desideri, dicevo vado lì e mi sistemo lì, no, è una cosa forzata, è dovuta essere fatta per forza. Io lo so, ma come guarda, abbiamo avuto dei rapporti allucinanti, cioè proprio ti posso garantire, non ci conosciamo da molti anni, da pochi anni ci conosciamo, più o meno penso che lo conosci, più o meno dallo stesso periodo l'ho conosciuto, però abbiamo avuto un rapporto eccellente, tutte le volte ci telefonavamo, almeno una o due volte alla settimana ci sentivamo, come stai, e beh tutto bene, ci passavo da lui, ti posso dire, cioè avevamo un carattere abbastanza simile, sempre cordiale, ed è stata una persona che con me non ha mai avuto problemi, nel senso come un fratello, sì, sì, ma anche con me aveva lo stesso rapporto, ci passavo anche io da lui, ci sentivamo per telefono, la verità anche con me è stato, Salvatore è stato sempre una persona ben voluta, perché è una brava persona, non si può dire il contrario. Dopo nel lavoro non ha avuto la scaltrezza e la, diciamo, l'intelligenza, chiamiamola, della persona, dovrà essere per certi versi un pochettino più attento e meno fidarsi, perché lui molte volte era uno di quelli che dice io mi prendo questo, vedi questa attrezzatura, poi con questa attrezzatura mi faccio questo, inizio a aprire questa cosa, faccio questa attività qua, e ci faceva i conti troppo in avanti anziché andarci più piano, per cui si ha messo delle spese che non doveva mettersi e non ha avuto la possibilità di rientrare, per cui alla fine è andato un po' maluccio anche per questo. Più i problemi con i parenti per la questione ereditaria, e per cui tutte queste cose sommate alla fine si è seduto in terra. Vabbè. E stava bene, mi Salvatore, non aveva nessun problema, stava bene, lavorava bene, perché andava nel paese, andava da tutta la Sardegna. Ah, lo so, ma non sai quanto lavoro gli ho mandato, anche lui vabbè me ne ha mandato niente da dire, ma un sacco di gente, io gli ho mandato un sacco di gente, anche la macchina mia me l'ha fatta lui per certe cose, certi lavori me li ha fatti lui, non posso dirgli niente, però dovrei stare attento, lui ha scherzato col fuoco e purtroppo si è bruciato malamente. Vabbè. Purtroppo la vita c'è un rischio, roba non rosichi, e lui ha voluto rischiare, è sempre un rischio rischiare, anche se un giro di parole è così. Già lo so. Vediamo un po' su 10 se c'è qualcuno, mi fate attenzione, canale 10, che vuole entrare avanti. ho sentito un rumore di tac del 60, ho detto, visto, ma vabbè, Gianni non è lui. Attenzione, riesci a capire anche le modulazioni, i suoni eccetera eccetera, perché all'inizio tu non riconoscevo neanche le persone, adesso difficilmente mi sbaglio quando uno cambia la voce e fa lo, il simpaticone, dai, molte volte si fanno gli scherzi. Luca può butti a tutti, ma a me non mi butti per dire, l'altro giorno si è messo a parlare, a qualcuno ha fregato, non riuscivano a riconoscere, io appena ho sentito parlare, lì c'è Luca. Più di una volta a me me l'ha fatto, ci sono cascato. Ora se vuoi io lo faccio, prima di parlare ti faccio questo blocco e poi parli tu. Non so, ho capito. Ah, non fa problema già. Tanto prima di parlare tu già, lo schiaccio e ti faccio questo blocco nel tempo e poi parli, ci stai facendo con tempo. Sì, vabbè. Io l'ho avuto prima di te, già, te l'ho venduto. Ma mia madre per il suo paracchino, già voi Claudio mi briga, dai. Accettate la mia Roberta, siedi, ho detto che è il mio, e poi siedi, la linea. Roberta, ho fatto il paracchino stasera, mi sono quelli da Gianni. Cioè, nei paracchini, subito mi butto, così giù come un cassone, ho citato le piatto uno, li trovo, e non penso che mi accorto. E poi sono passato, perché adesso poi si disallinea qui. Ma, mi ha detto come un cassone, no, i paracchini mi piacciono molto. Non so, proprio non c'è un discorso, e poi a dire che quest'anno poi è una cosa, però io ho questo modo qui, che i paracchini anche ogni tanto me ne prendo e accendo uno. Buonasera dalla città di ferro. Oi, Alessandro, mi hai sentito? Buonasera. K, buonasera. Ciao Gianni, doppio room, salutone Roberto e salutone Gianni Capri 2. E avanti Roberto, buonasera. Ciao Alessandro, ben sentito, finalmente ti ascolto bene. L'altro giorno eri un po' così, non mi piacevi. Ti rilancio Capri 2, avanti Capri. Buonasera Sandro, salutoni, ben sentito. Capri 2, come dici, da questa parte, in quel piccolo QTH, diciamo, caratteristico, hai capito? Possiamo anche fare, come si chiama, una cartolina con la cementeria che non c'è più, che era Pamulichi all'epoca, no? Per dire che il comune li chiamava soli, sì, e quando c'era la cementeria era proprio il comune più di qualità. Le puoi formare bene questo fatto, non sento una parecchia gente. Ok, già ti vai trattando. Allora, Sandro, cosa ci racconti di bello? Capra, raccontarvi, da raccontare ce ne sarebbe un'infinità. No, stavo finendo di fare carica e niente, girando canali in televisione, perché altronde non si sente più niente, stavo ascoltando lì un attimino quel programma che c'è, che stanno intervistando Bersani. E, insomma, ci sono i vari giornalisti Libero, 24 ore e quant'altro, che logicamente li propongono tutte le varie domande, diciamo tutte le varie domande che ormai ne siamo a strastuffi, e insomma, intanto per cambiare, tutto lì, Gianni, a te Mike, doppio room. No, io le ho fatto, guarda, questa politica non me l'ha fregato nulla, ho deciso, non vado nemmeno a votare perché intanto se uno di un maniaccio di blasto, cosa stai a seguire? Intanto dicono una cosa e poi fanno un'altra, è inutile che mi segui, perché di parola non c'è nessuno. Ti dicono una cosa e poi ne fanno un'altra, ti promettono per votarli e poi fanno quello che le piace. Avanti Gianni Capi 2. No, ripeto, già io stavo seguendo il telegiornale, per me si vota Berlusconi, perché quando c'era Berlusconi dicono che era non un posto così monti, ma in così volu ne parla da di salie, perché vabbè Berlusconi con il suo tu, però lì la metà questo signore qua, hai capito? Roberto, come pensi tu? Allora, io la prima cosa che dico, la politica in Italia, poi negli altri stati non lo so, non credo che sia a livello d'Italia, è la cosa più corrotta e più vergognosa che possa esistere. Facciamo ridere il mondo, chiunque sia destra, sinistra, centro, dunque persona che ci sia in mezzo ha solo degli interessi propri e buh, perché non c'è un politico, dai tempi di Pertini, l'ultimo politico che abbiamo avuto serio, sano, onesto è stato Pertini, che è stato l'unico persona, io mi ricordo sempre il fatto, Pertini quando è venuto Tito in Italia non gli ha toccato la mano, è stato la prima persona, il primo Presidente della Repubblica che non tocca la mano a una persona, a un Presidente della Repubblica, a un'autorità di un altro Stato, perché ha detto rinnego i miei principi, io ho combattuto per dei principi e non posso rinnegarli, questo era Pertini. Dopo di Pertini in Italia non c'è stato niente, è vero, poi il discorso sulla politica lo sappiamo tutti quello che è. Se lui inizia a non far pagare le cose, quei soldi che gli danno, probabilmente in politica non ci va più nessuno e tutti quei partiti che ci sono se ne scomparirebbero, perché tu inizi a togliere le cose, li paghi solo le spese vive, come può essere un impiegato o come un ministro che c'è in Germania o negli Stati Uniti, vedi che non ci andrebbe più nessuno in politica. Allora, perché io devo fare con questo una cosa massacrante, che io non posso, neanche uno c'ha due cane, c'ha quello, ma poi dopo fa tre picchi, i soldi bisogna poter fare, scusando la fai, lo dico, fa da fare, invece no, ecco, ha fatto questa traccata per i figli che mangiano, sono ancora soldati, che decide di darla. Un giorno l'altro, e quindi ci ha fatto il nato, ci ha fatto il sovieni e mi cazzo. Ok, così è, no, non lo sopporto quello, riprendi già. Ok, dai, vabbè, alla fine dei conti sappiamo benissimo che è una competizione, io la chiamo competizione, capito? È una competizione che fa gola un po' a tutti, diciamo, questi signori, chi piccolo più grande, diciamo, è un capolinea che fa comodo a molti, come capolinea, come chi raggiunge, diciamo, questo capolinea, con le sue demagogie, diciamo, con le sue promesse, con le sue quant'altro, vuole raggiungere quello scopo, ma vuole tutto uno scopo, diciamo, personale, non è che sia alle fin dei conti uno scopo, diciamo, a scopo, diciamo, benevole. Ma cosa volete vi dica? Io vi posso dire soltanto che diciamo che sarà difficile, tanto difficile, ancora dobbiamo subirne, dobbiamo subirne delle belle, non perciò che voglia fare il pessimista, ma io me ne accorgo, nel mio piccolo tempo, che 300 diciamo di giorno in giorno sta andando e si sta capovolgendo la situazione, quindi ci vuole un cambio non di poco, tutto lì. Riprendi Roberto. Allora, un attimino ho sentito la voce da lontano, credo che sia Domenico, poi dopodiché ho sentito di sfuggita Antonio Grode, vediamo Domenico che forse è il più lontanuccio, avanti Domenico. Va Domenico. E chi era? Non lo so se vorrà dirlo, a me mi è sembrato un'altra persona, però non sono sicuro, mi è sembrato un'altra persona che abita vicino a casa, avanti. Non lo so, vabbè, allora mi sono confuso, mi sembrava la voce sua col metodo che utilizza sempre, anche se mi sembra un po' tardino, per cui normalmente lo sento più presto. Ok, poi ho sentito di suggita l'amico Antonio Grode, vediamo se ci degna di una sua presenza, avanti Antonio. Non dovrei, però vi degno della mia presenza, dai. Ciao Roberto, ciao Gianni e ciao anche a Alessandro. Ciao Sa, scusami, stasera mi si è spento il cellulare, però ho capito che cosa mi stavi chiedendo e non c'è problema. E poi non ho capito in finale perché non abbiamo concretizzato. Mi saprai dire al limite tramite bassa. Comunque buongiorno a tutti. Buongiorno, sono Giacotto. Buonasera a tutti gli amici della ruota. Dai, riprendi Roberto, fai girare. Ok, c'è anche Gianni Capri, ti sei dimenticato, te lo rilancio. Avanti Capri. Buonasera a tutti, Capri da questa parte, che ti super cordializza anche a te. Stiamo parlando un po' del più del meno di politica e tutte queste belle cose, stiamo preparando per il nuovo consiglio dello Stato e darci, diciamo, qualche tua idea. Saluto e chiedo scusa anche a Gianni Capri 2, perito, non ho fatto abbastanza quei rins. Io idee non ne ho, o meglio ne ho una, che sarebbe la rivoluzione. Cosa ne pensi, Sandri? Cappa, ciao Antonio, buonasera, ben ascoltato. Se guarda, è una parola un po' grossa, è una parola un po' grossa da dirti, diciamo, che da condividere, diciamo, il tuo pensiero. Quella soluzione, chiamiamola soluzione, lasciamola da parte e sarebbe una soluzione lontana e da poter prendere in considerazione. La cosa migliore, perché per come siamo messi le facce sono le stesse, la condizione è la stessa, è statica, capito? Dove c'è una classe politica che sta mangiando alle nostre spalle. E vi ricordo fra l'altro che, attenzione, nella normativa della CB non si può parlare di politica, però se si sta eliminando, perché la classe sociale di mezzo, che è quella che poi alla fine ha fatto grande l'Italia, che è la borghesia, e purtroppo questo l'ho visto in paesi nel 95 come il Brasile, che erano davvero alla fame, dove c'erano due classi sociali, i ricchi molto ricchi e i poveri molto poveri, ma quelli alla fame proprio. E quando la nazione arriva ad avere questi due estremi vuol dire che è proprio allo sbando, e questo è quello che sta avvenendo in Italia, mi dispiace. Sendo io comunque. Detto una cosa importante, mi hai anticipato a dirlo, Antonio, politica in radio non bisognerebbe fare, tanto meno parlare di argomenti, di cose, diciamo, più particolari, per cui io direi concludere il discorso qua, oppure parlare molto vagamente senza fare nome né cognome, perché non è lo spazio adatto per parlare di queste cose. Troveremo un altro argomento magari più interessante, perché ormai ci bombarderanno tra qualche giorno di figure politiche, comizi, convegni, eccetera, eccetera. Per cui, se avete un argomento diverso, più interessante, per me va bene. Però attenzione, non si può fare proselitismo politico, nel senso che noi non stiamo prendendo delle posizioni, perché questo era riferito soprattutto alla fine degli anni 70, dove le radio libere o comunque i baracchini venivano utilizzati per fare pubblicità politiche, noi non ci stiamo schierando. Io credo che sia a destra che a sinistra ci sia la consapevolezza che stiamo andando davvero male, quindi non stiamo prendendo posizioni particolari. Comunque, non si parla né di politica né di religione per andare d'accordo con le persone. Riprendi Gianni Double Room. E allora di cosa parliamo? Parliamo di donne, così ci verrà con due punti di vista sempre maschili. Non mi do che cucciugato, Gianni, non mi do che se cucciugato questa femmina, già. Sandro, altro di Porto Povere, sarà di Porto Povere. Ok, dai, ok, vabbè. Scusatemi se ho lanciato, diciamo, la pietra, sono entrato, diciamo così, diciamo con questo discorso, ma poi a fine dei conti, diciamo che, diciamo, che c'è stato proprio approfondito, ho fatto nomi, diciamo, oppure delle preferenze che uno ha, che uno vorrebbe arrivare, quant'altro. Comunque, diciamocelo. Cambiamo discorso, è ancora meglio, perché insomma, fin dei conti, diciamo, è un discorso che siete bastardi. Di parte mia lasciamola a chi di dovere, lasciamola a chi di dovere di portarlo, diciamo, che sia buono a buono, fine, tutto lì. Va bene, cambiamo, sì, vabbè, parliamo di donne, vabbè, ho già nel doppio ruolo, le donne al giorno d'oggi sono ben protette, e come tu sai benissimo, guai a toccare una donna, eh? Ascolta, se vuoi entrare, là. Te l'abbiamo fatto un disegno di malonga, io entro. Ma... Comunque, oh, Gianni. Leggi l'articolo 1 della Costituzione italiana, lo sto leggendo adesso. L'Italia è una repubblica fondata sulla corruzione, sull'evasione, sulla pressione fiscale, sulla disoccupazione, sulla divisione nord-sud, sulla distribuzione dell'ambiente e sull'abbandono delle persone malate. Ma questa qui è una satira oppure è roba vera? No, la satira, me lo è vero, che è una repubblica fondata sulla corruzione e sull'evasione della pressione fiscale. Vabbè, io ne ho la palla intera sinceramente di ascoltare i politici, li ho proprio le scatole in terra. Tanto dicono e poi fanno quello che vogliono loro, promettono per farli votare, per farsi votare, eccetera, eccetera, e poi cosa combina? Ti tolgono lì e ti mettono una frattassa, ti aumentano la benzina, te la mettono dietro con la vasellina, scusando la frase. Capito? vediamo che se gli ho chiuso in garage, lui c'ha le chiuse. Ha comprato questa roba, sta imparando a unione, quindi poi adesso ho affascinato anche a lui la musica sarda, che prima non gliene fregava nulla, e diciamo, sono un cazzo acquiuto. Adesso fanno raccoppia, sì, la raccoppia, cioè. Il tuo Puglioni. No, è due mali qua. Super. No, ti dico, no. Sì, a proposito, scusate, non ho salutato Massimiliano Bulldozer che è entrato e Roberto Quadrato che ha fatto un correttino. Buon correttino, aspetta che sta scricchiolando questa cosa. E... ma perché li conosci l'uomo Marimba? Sì, mi raccolgo, soprattutto a Pippo quando sono via da cugliarsi del liscio. Poi c'hanno anche le ballerine nel duo Marimba, o no? Ma non ti posso dipende dai soldi, cazzo. Io ne ho una cantante di Campidano, Candolini, e quella, cazzo, cioè, è una cantante delle ragazze italiane, poi c'è l'orchestra di Campidano, mio figlio, però quando non c'è il jacket è solo da solo lui. E anche lei già suona bene. Narada, Massimiliano, ma è ancora in prova il tuo marito. E boh, ho sentito che lei suona bene. Sì, lo biffa lui. Sarà lui da Pippo. Cazzo, mi serve, siamo bene da piazzare con lui. Ciao Massimiliano. No, se no sono troppo sporcazione, dai. Ho fatto scappare Roberto Quadrato. Sì, ma ascolta, soltanto sul canale 10 però, Non mettere l'orecchio in altre frequenze. No, giuro, sono alla nanna. No, sentite, vi ho sentito, voglio entrare a fare due battute e chiudere, dai. Saluto a tutti, Sandro, Gianni Capridue, Antonio Grode e chiunque fosse in ascolto nel canale di ci dai. Comunque già suona bene Capridue. Riprendi sa. Eia, ok, dai. Ciao Massimiliano. Sentiamo tutte le prossimine. Ok signori, a me mi è salito il QRM, faccio fatica, cioè fatica. Riesco a tirare fuori appena Antonio Grode. A Gianni Capridue non lo ascolto più, in quanto mi è salito non di poco ma un bel po' di QRM, a parte che qua sta piovendo e quant'altro, quindi brutto tempo in giro. Dai, ne approfitto, vi saluto tutte quante alle prossimine. Avanti Crode. Cappa, ciao Sa. Buon QRT, oggi non lo porti a fare il giro. Sì, mi adesso aspetto che calmi un attimino di piovere e poi portiamo anche al grande Fedele. Cava, dai, buona passeggiata allora. Ti rilancio Gianni doppio romper i saluti, avanti. Ciao Sandro, dai, buona passeggiata. Ok, non prendere più, già se lo cresci di più. Qualche centimetro in più almeno. Se non cresco più mi tocca cambiare l'abbigliamento. Ok, ciao. Sandro, poi se dobbiamo finire con la telefonata chiamami, non c'è problema, quando vuoi. Riprendi Gianni Capridue. Perfetto, ciao Sandro, sono un po' rifatto di sentire, sono poi fatto il 50 mega. Ok, perché quando riparla sono uno. Ok, perfetto. Quando vengo vi faccio vedere il prototore. Anche la torre, c'è un baracchino ma di prototore, questo è la mia destra. Ok. Diciamo, eccomi, Bulldozer. Certo ci arrivi. Per dire, mia, dov'è? Di cantarti in antico. Mi sto ascoltando, continuerà. Non lo sapevo, ui. Ti stavo per fare la chiamata. Fate, buonanotte. Aspetta. Fate. sbagliato, perché c'è questa voce nasina? Ma c'è una mia tipo, parlando a distanza microfonica come da combattimento. Mi divertite, mi venite ascoltando, dai. Ciao Claudietto, come dicono a mio figlio, ciao Claudietto. Ciao. Vedi la differenza che lui c'ha dietro la cosa, la disco dance, vedi? Sei cuso e sei fighere, usa radio libera, se ti prende da tu il nome, ci sono affini di canotte. E lo sai che sono 2 ore a attaccare il canone che ti dà un mezzo. Insomma, Maria Giuseppe, riprendi già. Innanzitutto saluto a Claudio che è entrato. E niente. Te la vedi già, contento sei? Contento? Sì, c'è un po' manfuori stanotte. Non sta fanno a rientrare. L'amico diceva, oi, oi, oi. Mi è contento? Pari odio, cazzo. Mi sono dato un po'. L'ho mangiato in 10 minuti stasera. E una cosa, poi uno lo faccio all'altro, cioè, capito? Come la storia qui. E non ho più in più giù. L'ho preso uno, lei o uno. Invece di andare a donna. No, ma mi dà le orecchie, non è possente, è rimuovo. Non è che è giù, io sono abbiamo di sopra e ci sente questa roba. Hai capito? Ok, lo facciamo due, anche noi con i fagioli. Quindi... Vabbè, là, là c'è divertire. Interessante che vicini di casa stanno alle fucile. Ma Gianni, ma cosa sono? Organetti o fisarmonica? Che tipo? Ciao. Era piazzato dentro, c'è un suono inconfondibile. Hai capito? Vabbè. Salire a parte che non mi rompera. No, me la fastidio già, perché non so, ma poi non fa parte della collezione. 2 ore sono con questa cosa nell'orecchio, sono. Grosse, riprendi, cosa non mi facendo a burro l'altro giorno? Respirando aria buona, ma ti stavo chiedendo, ma cosa sono, organetti o fisarmoniche? Ok, questo è un organetto che ho comprato da poco, no, diciamo che ne abbiamo 7 o 8, ma poi non è mio. Il grande suono... Io ne ho una di fisarmoniche. Il grande. Però quando l'ho comprato c'è il piccolo. Per la cecci. Il piccolo, però per lui c'è sempre da là. E stavo con lezione, non niente, però mi bomba, la cosa è quella lì, ci la so, sono fisarmoniche, però veramente proprio... un po' che si coinvolge in bomba, che non ne ho mai visto, ed è sempre una scatola di cerino. E lo corro qui, Sai che cosa? Chi è che suonava la fisarmonica? Adesso non mi ricordo se era o Gianni o Claudio. Correggetemi se sbaglio. Gianni non più lui. Ah, io fisarmonica, no, il flauto. Non sento tu. Il flauto traversato. Di traverso. Buonasera a tutti, dal sindaco di Proaghe, buonasera. Pace bene a tutti, ciao Giuseppe. Giuseppe, buonasera a tutti quanti. Gianni, Campidue, tanti saluti dal sindaco di Proaghe, cambio. Grazie, ricambia, ciao Giuseppe, che non fa se tu sei a Roma, che non fa. Chiedilo a Claudio Sparbiero, vabbè, come ti risponde. Claudio ti ha dormito, ti ha salutato, proprio stasera andiamo lì a parlare. E ne lo conosciamo, hai capito, Francesco, ma problema. Non voglio mai io. Sparbiero, non voglio questo periodo di parlare, mi piace ascoltare. Ma Giuseppe gli ha dato un parere. Ma ok, fai girare Giuseppe, come buonasera. Buonasera a tutti quanti, il componente del canale 10. Altrettanto, cosa ti sei mangiato Giuseppe, che ti vedo bello teccio? Io? A me guarda, pesce, ho mangiato pesce stanotte. Il pesce è buono, è leggero. Però lo sai mangiare bene il pesce. E che tipo Giuseppe, che tipo di vice? Leggero e buono la notte, però cosa ha potuto mangiare? Beh, la piccola oratina. Ma e cosa? Tu la sai spolpare bene la testa? No, quella no, quella no. e la testa del pesce va succhiata, che è buono quello. Ma io non ci sono buono, io mangio il retto, però a testa no. Sei bene. Oi. Cattivia siete. Capri due, se non te l'aspettavi stanotte, fate 4 risate. Sì, oggi già diciamo c'è un po' di volume, un po' di grato tanto, pare cosa. No, sto ridendo, appunto, uno che la può disfacciare. Non rino via, chiude, mamma mia. Ok, no, è vestito per tutta la faccia di Antonio, come siete, la bocca, come siete. Senza dura, no, però bisogna stare attenti perché l'importante è che abbia le squame. Ma alcuni sono senza squame. Ok, ma lì mi ha detto, cioè se il cielo lì in quella zona non c'è niente dove mi ha detto che sia andato, cioè già c'è qualche cosa, ma non è che dopo siamo anche che sia andato per certi affari lì, no? Guarda, sono salito su dove c'era il mezzo parcheggiato e poi sono sceso fino a giù dove c'è il campo di calcio e mi sono fermato lì. Ho guardato su però antenne non le vedevo. Ma dove dai, Dio? Ok, no, no, io ho bisogno di fare il campo che è dove su di Auro. E stavo dicendo una cosa. Non è che stai prendendo il folletto, oggi è venuto uno, venuto. Il folletto è anche da altre due volte, abbiamo usato la pasta, è stato il cambio della legge, non so questo, è venuto. E mia moglie è andata in salina e ha fatto una piaga con la due. E questo è il folletto, non è che prendi il folletto in quel caso, no? E perché non lo sapevi, certo, che prendi il folletto? 1400 euro, se l'ha comprato mia moglie, ma dalle pipu del folletto a tu. Quello col sacco grande. Ma uno è venuto io, diciamo, che il tempo, diciamo, molto, diciamo, limitato. E da presentare come si chiama, della legna, apri che c'è quello del, come si chiama, della legna, sono cambiato una pulla, prende il folletto, ho tappato ce n'è uno. Se una mamma l'avrà usato un paio di volte, però ogni tanto passano, se le dici che ce l'hai già, no, gli è uscito un nuovo tipo così aggiornato e questo è dei denari. Cosa succede? Passano ogni giorno, cioè ogni giorno, tipo bimestralmente per proporti i prodotti e rotture alle varie, capito già? Quindi preparati, già ne dobbiamo rompere che fra un mese te li vedrai a casa. Mi. Cioè già una volta ci siamo mandati in quel paese, stiamo cercando la signora, lei chi è, scusi? Io sto cercando la signora e mi ha detto il nome e il cognome di mia moglie. E io sono il marito, mi dica chi è lì, sono rappresentante della folletta, a noi non ci interessa il folletto, buffera di usare di citofo. Fatto sta che ci hanno ritentato sino a quando l'hanno beccato e l'hanno convinta a comprarlo. Ma dimmi, roba di qua se ci caspira pure, adesso devo andare a quel mercatino dell'usato a venderne un po', perché questa cacchio me ne faccio. Ce lo vedo. Riprendi Giuseppe. Purtroppo, è così. Quando sono. Si fissano una cosa e non ti mollano. Sono peggio della zecca. Ghiattura. Avrei lui. lo so. E poi costa un bel, costa 1400 euro il folletto. Costa molto, però la verità, mia moglie è soddisfatta, adesso la sento soddisfatta che praticamente dice che pulisce bene, che dopo aver passato l'aspirapolvere normale loro hanno ripassato il folletto e hanno tolto altra, dice ma qua è già pulito, sì, adesso le facciamo vedere, e hanno messo questo coso di lana e gli ha fatto vedere quello che hanno tolto in più. Però io gli ho detto loro, quello che usano per farti vedere, c'hanno due motori, di modo che aspiri di più di quello tuo normale che ne ha uno solo e di quello che ti vendono che ne ha uno lo stesso. Cazzo, e beh, non lo sai, anche con lei. Sarà poco, sarà un paio di giorni fa, sono venuti questi due rappresentanti qua della Folletto e gli ho detto guarda mi dispiace, io la Folletto ce l'ho già e non mi serve la Folletto, poi come ex rappresentante della Folletto non mi interessa, vai, vai a cinema, va. Perché Folletto vendi? L'ho fatto per una settimana e poi me ne sono andato. Te l'hanno data? Che cosa? La pensione, per la settimana. Ma è un peccato per lui, lascia perdere, manco i soldi di quanto cazzo giravo in macchina per andare nei paesi io. Ma almeno ne hai venduto, sì. Ah? Ne hai venduto? Non l'ho venduto, no, stavo facendo, hai capito, il favore a un'altra persona, hai capito? E ci ho perso io, ci ho perso benzina e non ho visto manco soldi. Ma poi su ogni vendita si guadagna abbastanza bene. E almeno 300-400 euro te li metti in tasca per ogni folletto venduto. Poi lascia perdere tu, lascia perdere. Che non è così. In base ai folletti che vendi, hai capito? In base agli articoli. Questi articoli qua che vendi c'è una percentuale, hai capito? No, pensavo in una percentuale, se costa 1200 euro vuoi che almeno il 20% non te lo dia? 1400 al 4. Magari che c'è un pugno, riprendi il tuo pugno. Lo faccio di tuo pugno. Ha fatto una prova evidente e mi ha tirato rosa con questa roba, con questo apparecchiatura, il soletto, quel caso lo puoi chiamare già, secondo me che nei materassi c'era che cosa, infatti poi non ho comprato il soletto, non ho cambiato i materassi. E niente, però molti di noi ci avevano qualche motore di più qualche cosa. E anche io sono il più che gli ha venduto, beh, ne faccio un altro, ma non sono calato con questo, qui là, lo sai che era il primo, tutti i pari che avevano comprato il folletto da voi, e non ha venduto più nessuno, come ad un'ora. Hai capito? Saletti uno di questi che passa, qui non ci fa nulla, neanche a casa del vicino, ma dice i pareti lo comprano tutti, però poi a fin dei conti, infatti sono anche quelli che sono buoni rappresentanti che riescono anche a convincersi. Deve avere una certa parlantina. Quello che hanno tolto era la polvere praticamente della pelle secca, che noi poi ci respiriamo e piena di acari, te la detto. E non penso mai dove più un materasso per tutti voi, cambiati già li abbiamo. Sono convinto perché ce ne hanno trovati per 10 giorni. Sui materassi nuovi l'avrebbe aspirata di nuovo. Hai capito? No, non è proprio già che un aspirapolvere qui, non è un bidone di quelli che hanno nuove, qui quando la faccia pulisce. Si tira la minima cosa perché lo uso anche io già molte volte mi danno un cielo qualche cosa accade il posto è pulito già quindi il pollo è da che cose se ne è detto di rare provate scassare ma però già se tu lo fai ne stanno passando e dicono che ci hanno nuovi aggiornamenti qui la quelli per quello che hai comprato da prima non vale più hanno basso consumo di corrente. Tu non puoi dare poi delle già, lì che sei fare, ci vuole tanto che non gira, che non la staccano. Il contatore la gira sempre, ma la so. Adesso poi con questo NLC abbiamo pagato un sacco di tasse, me ne sono accorto, confrontato la bolletta con quella di su, praticamente quella di su con le stesse persone, lascia la scaldabagno il giorno acceso, eccetera, eccetera, usa aspirapolvere come noi, eccetera, eccetera, e ha pagato un bel po' di soldi in meno di noi. E noi abbiamo consumato tanto e abbiamo pagato molto di più di tasse che di quello che abbiamo consumato. Te ne immagini, questo è NLC. Mia moglie già l'ha avuta le programmi da Rigiamba. 40 euro mi avrei fatta già, però tutto quello che ha pagato l'estate a volete che il fatto vedere che infatti avevano paura, e lui ha fatto lo conto, cioè, e tutto tanto si pigliava conti altro dei mesi che non neanche che devono ancora venire, e dopo si è cancellato, si è messo a fare nel normale, so che comunque comunque caini sono, però già ho fatto malissimo, hai capito? Bisogna trovare come nel normale, non so cosa arrivava anche a zero la bolletta, e non è stato bollette così. Ok, ripremi a tu. E tu ti stai lamentando, sai quanto ho pagato di bolletta? 240 euro. Anche così erano già le altre delle scarpe, erano 240, 220, e poi mi ha ribatto una, mi sembra, altri mesi e mai, ero lì, 40 euro, però sono già fatto quello che ho pagato durante l'anno, magari non ho fatto dei compensi, però diciamo già, però è normale, non ho mai pagato così, riprendi Giuseppe. E già, devi contare. Gianni Doppio, deve contare se c'è anche il corso del conguaglio o no? O no? Ho già arrivato te. No, Giuseppe, non è conguaglio, anche gli altri mesi abbiamo confrontato e ci siamo accorti che praticamente si pagano un bel di tasse, per dire, avrei dovuto spendere 70 euro di consumi e ho pagato oltre 80 euro in più. Poi ci è arrivata la bolletta della luce, 120 euro. 120 euro si può anche ragionare, Giuseppe, ma siete in due anche, il fatto è quello. Quella di su 120 euro la pagate in quattro persone. Capito, ma siamo in due, però devi contare molto che noi azioniamo molto, ricordo la sera, con il senatore, capito, per mandarci l'aria calda, hai capito? Ah, ecco, vabbè, no, noi non lo tocchiamo con l'aria calda perché abbiamo un po' sifone, quindi non ne abbiamo bisogno, però qua si usa aspirapolvere, si usa la lavatrice a gogo, anche se sta attenta e lo usa negli orari, diciamo, dove si paga meno, eccetera, eccetera. Lo scaldabagno lo attacco la sera e lo spengo la mattina presto, di modo che abbiamo l'acqua calda tutto il giorno. E niente, si cerca di risparmiare, ma quello che consumi ti dovresti pagare, non pagare tasse in più. Quello è giusto. E per un po'. Invece tu, quando ti vengono a fare il coso, dall'ultimo controllo che fai del controllo della luce, della roba lì, la prendi tu la lettura del contattore, quando vanno là, e te lo confronta, e dice no, mi dispiace, io ho filato i numeri, ho filato la lettura, come va, non risulta? Ma gliela manda a buio la lettura, forse la meglio, lo fanno a forfè, capito? Poi se di più o se di meno, poi te li aggiungo. Appunto perciò io facciamo noi, quando la facciamo noi la lettura, in base alla cosa, glielo diciamo, guardi che li telefoniamo e dico no, quando le cose non vanno bene, la lettura che avete fatto voi non va bene, perché io ho preso e abbiamo consumato tutto, e tutto dobbiamo pagare. Paga. Ma non mi appompo. Poi, becca morto. Ciao, buonasera a tutti. Paga, non c'è problema. Beh, giusta per la gara, sono giusta. Eia, a posto. Cosa era, poi? Il LED? Faccio contatto, era. Che non avevamo anche i letti, ho fatto prima. Infatti è proprio quella. Saluto a tutti comunque, sono Antonio Timur. Siamo messi nella stanotte. La verità, ci vediamo un pochino. Andiamo un pochino. Ok. Tra poco vedrà che chiamano al campanello. Perché sta disturbando? Come minimo a quest'ora sì. Lo senti il casino della pioggia? sente? Si sente, perché tu c'è il cielo in una stanza, no? Appunto per quello. Paga, paga, sì che si sente. Ok, va, già va bene, comunque. Va bene, va bene. Ti prendi Gianni Capri 2. Ok, già lui non è un problema, ma le male gambe, ma come va certo il gruppo, che tu in campagna, per tirare il posto, ok, no, hai capito, ma le male gambe attaccano un cuscio, già di sacco duro, solo che quello già, la trasera, l'ho messo in moto, insomma, mettere a posto il garage in un attimo, non c'è più benzina, non dico poi ce ne l'ha da Claudio, quindi. E il capito no, no, si pigliano a conti di consumi che ancora se si dio su molto, mi usavano la bene, invece molte volte già se ne prendeva in più mandava anche l'assegno, adesso lo sono insieme a voi mi è capitato, però questo se poi però ci ha dato 40 euro non so l'altra cosa arriverà, vediamo un po', perché sono sempre propenso a ritornare alle nel normale. Ok, Antonio Glori, prendi, aprirete. Un attimino di quello che sto finendo di fare una ricerca su internet, riprendi Gianni, fai girare. Ehi, ehi, andare. Chi è rimasto? A chi tocca? Hai capito già com'è? Lì bisogna prendere la lettura quando è confrontare con la bolletta che ti mandano e dirgli no, telefoni dici no, qua i conti non risultano. E come è così? Mi avete mandato la bolletta e i conti sono quelli. Ma lo sai cosa è scuro già? Ti ho contato di nuovo, Giuseppe, prima come se c'è 12 anni, poi vedi il contatto lui, anche io la mandavo così perché hai capito, era il contatto del vecchio, quindi ci passava nessuno, mi dava nessuno, la mandavamo noi, la mandavamo, capita subito quello che ci veniva a te, non c'è proprio anche di meno, però con contatto di nuovo, la prendono direttamente loro, anzi, con contatto di nuovo, ne staccano la luce, loro, se sa che ti passi un tecnico e la riattaccano loro, dimmi se è così già e non sto sbagliando. Sì, davvero, lo fanno, si può resettare, addirittura è venuto, io ho chiamato un elettricista per farmi controllare l'impianto per vedere se c'è qualche dispersione, qualche cosa, perché lui si era allacciato, perché lui quando è sceso giù stava controllando il contattore, quanto di colpo dice boom, sono aumentati i watt di colpo, di kilowatt. È salito subito e ho detto cosa avete attaccato? Qualche cosa? No, è andato da 300 a 1200 di colpo e allora qua dice c'è qualcuno che si è collegato, aspettiamo un pochino, ha resettato tutto e invece non c'era nessuno collegato e cos'era? Mia figlia che era in bagno si è attaccato la cosa della sua capita. Sì, ma perché in quel caso io come la possono passare che a mia moglie gli ho messo la corrente a filtrare, la possono anche aumentare, se come si chiama di coso, non lo so, io non mi guardo mai, perché ormai sono padronoso isoso, però c'è gente già che il contatore non tiene sotto controllo, anche tanto mi chiede, vabbè, non puoi troppo già, il contatore c'ha un coso, un padello con tutti i consumi segnati, l'altra cosa gli ho fatto anche le voci, quanto se c'è la docendo, facciamo che non c'era nessuno in casa, e a buio erano proprio un figlio, come due scegli, da papà la stelle, salutano la stelle, e dati per il loro rimbrete, mette pure le terribili, e c'è un padello che ha con tutti i consumi, c'è la maglia barocca a gallo. Ma è così, sta diventando un problema, sta diventando così già. Mica nel tuo se c'è la contro una cosa, tra poco è andata all'altra, è stata per camminare per fare un bambino. C'è da dare un provo, però in come si chiama adesso fa? Di pezzi, la macchina non li sono più dando, però esci di pezzi, ti gira, se devi vedere una cosa, le avvila, le compratela. Però alla buio che sono già nessuno, tutte e due dentro a buio, ma la stessa cosa tua, ti lo segui noi. E ti ha contagiato già, ti ha contagiato. poi ho già, ripeto, dopo Simo, per non è che me ne copro, proprio, non è che non me ne copro già, però non ho dato già, cioè sono per esempio, ho preso i cioibili, cioiva, tutte queste cose, di come sono, devo fare anche, capite, ho già, c'ho quel tosse, da lì devo prendere tosse per parare tosse, per fare, e ne ho speso, mi ho tutta la campagna, ne ho spesi, ho fatto dei miei violamenti, ho quella serrata, qua, cioè tu, potessi rinunciare già, hai capito? E io diciamo, adesso poi io finisco e ho di nuovo soldi, io ho quelle tasse, non devo far passare anche le tasse già, perché cominciamo, siamo adesso, ideati a comprare una stufa a pelle, stiamo girando, poi se la compriamo buona facciamo l'impianto qui per voci fuori, che c'è un punto dove ci possono passare questi tubi, e riesco con senza fracassare molto la strada già a scaldarla tutta. Adesso piano piano, però ho detto, mi deve a mia moglie dare tempo, ho detto almeno un paio di mesi a vedere la situazione. Ok, riprendi a come? Non so cosa dice la verità. Sta fervendo, quindi. A un certo punto, non so cosa dire. Quale sono tu? Non so cosa dire. Senti, senti, va. C'è la dieta e... No, non so. A te. Sono in testa, fermati. Un microfono che attiva tutto. Ma se ne è vista. Se ti ha accorto di più, affacciati a vedere che c'è un negro fuori, tutto bagnato, si è aperto il bar, ha detto che entra. E cosa le chiede al barista già? L'atroscio. Oh, cosa le chiede al barista? Che cosa serve? C'è un negro tutto bagnato, cosa le chiede quando entra il barista? Un negro. Allucinante, ma perché non c'erano due al sole, che a Porto Ottone stavo prendendo il sole, era una bella giornata. E le tempo che vi state abbronzando. Non è un piccolo risultato, c'era ancora, mi si trova, quindi quelli dove le barbellette e mamma ha buttato fuori, o dal social market, come quelli di quel social market già. Però ma questo libro di scusi tra miei, ma da morire dall'inizio. E non avevo toccato bene o male studiato, volevo iniziare a buttare qualche. E questa mi aveva, era stata più bella, non è, ma che c'è un parere. Perdere degli anni 70. Anche lui, televisione, non diceva mai, poi non la finiva, solo che era nel libro, cioè, nei prendi Giuseppe. Un tipo entra in un bar, un avaro, il barista, 18, no, uno solo. E in questo bar, quindi, attire. Cosa dite qua? La metà l'ultimo video, Ho capito com'è, ripeto, proprio con dicchi, e la scandita, non ho capito nulla, tu ti leghi il dente, come? No, ho oggi ho visto. Non ho preso giù la luce di giallo, si è passato, non fammi la forza. Perché? No. Sì. È giornata, sì, già. Vabbè. Allegria, allegria. Il riso aiuta a vivere, il sorriso aiuta a vivere, se uno ride, sorride. Va bene quando c'hai il mal di pancia, il riso in bianco però. Il riso si abbonda e la sua bocca di sciù. Brava, qua, ma non puoi fare che schiaffi da giù, da giù, da giù. Chiedo a tutti, anzi ti scusa già, se no noi non le facciamo, perché questo è un paese, non manco la stessa, ma qua non è stato che è stato attacca il fuoco. Certo, in due parlano, eh. Sì, lo dirà più bene. Invece da noi lì punti fanno la falla. Ah, visto, Che vero? Già, ma in pullman ci devi andare? No, ho mandato il fumo di 30 pezzi di asino, io il mio già no, perché hai capito, sono bloccato, mi ho fatto l'assicurazione a dicembre, me l'ho bloccata già, io l'ho usato anche per buono, per fare due viaggi al mese non mi conviene, che mi costa più di 700 euro di sinistra di assicurazione. Però anche un uovo vale già, sono un po' le sere di loro. quanti grodi se ci sono. Facciamo il radioascolto un attimo, che sto facendo una cosa, riprende? Vabbè, Giuseppe. Eia, non bisogna mai fidarci, uscire con questo tempo, che poi può succedere qualcosa e poi tocca fare il funerale. Questo ti serve a me. Antonello, ti ricordi di me? Ecco, no, no, ti, non ricordo di te, la verità. Chiama il coso, no, no, non ti conosco io, dico. Quindi a questo punto no. Meglio che non succeda niente, va. No, io ripeto, una volta quando prima di sposarmi, sì, anche con la Giappeppo, siamo dell'ottavo a due. Siamo fatti per solare a questa sala tra le due a vicino a Pietro a mare, con questa nome come presa musicista. Partiamo già. La macchina mia l'avevo lasciata a Sacari a casa sua. Andiamo a una serata bellissima che siamo partiti, beh, ne usciamo la notte dalla sala, poi la gente ci va pure a fumare, non è che il fan era del ricatto, appena appena c'era però, beh, andando già a metà questa cosa, siamo con la Renault 18, siamo riusciti a arrivare a Sassari, lui è riuscito a dire di dormire qui stavolta, io non mi do molto, professore, la situazione che devo rientrare, che c'è la figlia in casa, non volevo rogne, capito? Mi ho preso la macchina già, piano piano, beh, arrivo alla salita, allora c'era quel distributore fino a cosa ha fatto la macchina, mezzo chilometro già, non andai ad Abiuso, ma adesso sono salito a piedi, ho lasciato la macchina, qui la volta ha fatto, e l'indomani, guarda, c'era minimo, più di mezzo metro già, di neve, e che era serata, era bellissima, siamo partiti, che era bella, capito, non si sa mai, perché siamo in tempi l'anno scorso, quella per te vita, quella fatto, hai capito, sono entrato così, sono stato 4 giorni, vabbè che ero io, sono fatto lo stesso, beh, 4 giorni no, che non abbiamo lavorato. Io sono andato lo stesso a lavorare, ma lì dove c'è Graziella ve l'ho vista brutta, e si è girato un camion, capo, io non potevo né frenare né nulla. Si è girato questo camion e ce l'ho fatta così così a fermarmi. Poi io già c'ho i bambini, due bambini lì dell'agro, devo scendere per forza e poi mi salire per Caldiere che sempre in strada e niente, ma mamma con la casa non pesa all'altro, lo uso perché sai dove parcheggio già c'ha delle salite che si ghiacciano, hai capito, non ci ha messo la 75 una volta, ne volto anche a non muoverla, cioè c'è del, come si chiama in un cortile, niente. Io l'anno scorso ho detto io non viaggio, appena appena vedo come si chiama e gli ho detto se sono a scuola, ho detto che vedete che inizia a avvertire i genitori che io non lo muovo la scuola, dove, e tutte quelle, fate queste quelle cose, poi mi è capitato che il codo era ruolato, che stavo scendendo a Cagliari, sono partito alle 3 del mattino, io dovevo essere alle 9 ragioni Cagliari, media, c'è quella golf nuova nuova con Mabro, perché poi la sera mi devo risalire un documento lì, e arriviamo lì, già, come si chiama prima di Monorfa, nebbia e neve, la macchina, la golf nuova di Deca nel 78, e mi sono accodato al cambio della Luna Sardegna, poi dovevamo entrare a Macomera a pigliare un altro collega, media, prima di arrivare come si chiama lì, Macomera, c'era un camion di trapezo, siamo riusciti poi a passare con la macchina, poi di tanti tentativi, ti dico che ce l'abbiamo messa tutta, bisogna, quando poi a questo tempo hanno rimesso a toccarli. Noi siamo abituati noi a avere questi tempi. Lisci, come va? Rispondi. Ma come è? Ne che la Juve c'ha a mano, sono a rispondere. Giuseppe riprendi, incantato semi. Sono qua. No, sono qua a Pompogno, sei incantato. No, sono incantato a Sperato. Sì, è abbassato, ho qualità dell'avvocato. Adesso come vado? Bene, sì. Però se mi arrivo a me, io vabbè, non mi devo proprio guardare, non mi sembra che arriva più forte. Cosa ne dici già tu? Che perché adesso ha lavorato a parecchio, prima il vecchio, adesso c'è l'altro, vai. Dammi mi pare che ciò che mi ha fatto le parate che era infuriato, non più che era infuriato, sono furiato, lo dirà, che non le hanno bello, è venuto invadito qua dove ami già, però se lo fa la libro di Alan, e di nuovo sto velocendo, sto quando faccio, siccome non vero ci vado molto lì a fare delle escursioni, ma sto dicendo questo anche lì, come di non lascio, forse a non trattare, o già hanno comprato di questi baracchini alla 48, hanno speso un occhio della spesa e ce ne sarebbero usciti due di questi, fissati con questi cosi modificati, e quella maniera ce la metti anche voi. Sono tutti quanti guasti per quel motivo lì. L'albero era originalissimo, che io lo voglio uno, io lo compro se lo trovo uno, però lo lascio normale, l'ho mandato dentro mia cugina, nuovo due volte la blocchetta, perché Claudio era appena nato, cioè il baracchino l'ha volta a casa per non disturbare quando dormiva il bambino e niente, erano tutti modificati, per c'è già lo sapete, la camera mica, tu sono macchina, un occhio della terra, poi c'è il bagnito di questa roba che c'è qui perché l'ha visto, perché siamo molto amici con Damiano, ho detto, stavo dicendo che mi stia dicendo questo, l'icco, ma Iuga, che mi concusinare che prendete in macchina, poi per non parlare delle antenne già, di queste antenne Turbo 2001, proprio, adesso io ne ho tre, uno li comando una IA, ma basta, la Turbo 2001 ce l'ho, è pompa forte, non è un'antenna da buttare in via, da degradare, è un'antenna favolosa la Turbo 2001, ma ne ho una solo, non mi interessa averne due o tre, ne ho una, va molto bene, è come se avessi una mano qua sulla mano. Tu non me la devo regalare, lo sai che quel pezzo è un altro scemo, quello che mi tocca la legna già, è un altro scemo, lo so perché la fatta, ma non funziona, ma dobbiamo già regalare, poi già non sono fatto lì perché nell'alfa non ci sta a buttarla dentro la macchina, a portarla, non per non fare tre cose, sono perfetto, perché il camion rosso già ha comprato la Turbo 2001 di colore rosso e l'altro l'ha lettrata, ma io con una lampa usano un capisese, poi. Ma quella rosa non pompa come era, quella blu che c'era tipo vecchio, pompano di più con il tipo vecchio come ce l'ho io. Sono tutte uguali, non cambia niente. Il discorso di macchina è quello. La blu mi vuole dare a me, ma io non le attacco in macchina, la posso pigliare per collezione così, che non me ne frega più di tanto. Io quello che vuole fare è uno di questo, o vuole di condotta, sarà minimo minimo una circonferenza, già lo sai il coso che c'è scritto turbo. Oh già. Ma poi dimmi, dimmi. Cosa cambia, scusa, da uno all'altro, non cambia proprio niente. La verità, tutto quello che è, comunque sia, quello che è, ma poi funzioni, il discorso è quello. Ognuno si accontenta di quello che vuole, purtroppo è il business quello che è, capito, quindi. A me mi piace, giù su una barra pesante, che fa la figurazione, c'è la macchina, già mi ci fa la macchina sta cosa, la macchina non la buco mai, così buio, mi dà per sapere che mi dai tutto, hai capito, l'altra perché la porzione, anche la porta, ci ho messo quella rondaglietta che è in garage, la vita, uno di muro, l'altro già se me la dai, mi piace, no, la crepusa la stata in due mesi in garage. Capito, c'ho la Polo, la Sirio, mi sembra che c'è attaccata, c'è lì un garage, no, ma non è buco, non la come metto, capito, una base magnetica, poi si può buttare con il giusto, ma che volta che dovevi mettere così per fare gazzosa, ma non ne vale la pena per con questi capo volanti, tutta la nome finestrino, però questa, diciamo, è logo ruico. E ha messo la pile 100%. E a Natalino infatti mi ricordo io che avevo una macchina, la più grande che avevo messo all'epoca, la Sigma, quella con la si è con una lezione, con una molla grande, però una sigma, però una molla non era così come la turbo, quella in metodologia dell'epoca, e poi la più grande antenna che come c'era quella lì già. Capri 2, lo sai cosa ci ho piazzato io nella macchina? Io ci ho piazzato una cannuccia. No, e poi fin dei conti, io le avevo le fatte all'epoca, mi qui, me lo sto dicendo, e ci avevo messo anche me, cioè Adriano Cavolo e Belleva, avevo messo una frusta nera, e di quelle porte come poi ha fatto Gianni nella macchina, e andava bene lo stesso lì già, ci avevo messo la frusta nera piccola, che non so, 70 centimetri c'era stata, e arrivava anche alla girata la macchina, il baracchino. Con Giuseppe comunque c'era un 2001, dice bene stesso, la verità si dica, comunque sia, piccolo ma sincero Giuseppe davanti, avanti Giuseppe. Eh beh, sai che le antenne buone ci vedono il rendimento e tutto quanto. Capito, è Gianni, il malvado. Stavo dicendo, è come i piante in nasa e fondelli, non è del coma come. Cosa sai, no? Hai fatto la risata di Julio. Non faccio niente. Non è possibile. Ma oggi cosa è? Qualcuno ha mandato ceci? Come fai a indovinare? Invece oggi abbiamo mangiato proprio ceci. Ma schiappare già fatto. Hai capito? No, questo è adesso mica uno scherzo lì, che le mangio spesso dentro questa roba. E già poi ho capito anche la battuta, non di questa roba le mangio spesso davvero, mi piace un sacco, non so geniale. Mamma mi ha imparato a mangiare tutte le pietanze, che giovane, non so, hai capito. Non bisogna mangiare sempre carne. Però so cosa mi volevi dire. Dopo riprendi, dimmi qualcosa tu hai. Dopo ti dica io. osserva e ascolta che va quello. Stanotte concerto da Gianni. Cosa Gianni? Ho detto stanotte ci sarà il concerto a letto. Ma sabe no, oggi no, stanotte ho mangiato il canotto già. No, se me ne cucina ogni settimana sono contentissimo già di quelli imbarato, come si chiama, andiamo carota, zucchine, fa bene già, sempre pasta, ieri per esempio c'era pasta, mamma mia, hai capito? Polenta, tutte queste cose già mi piace, domani c'è ancora polenta, mi ha mancata la brustolisco già, sono i uomini più contenti sul mondo. Domenica c'era maialetto già, di quelli che compro a città mercato, mamma mia, cosa che hai ciappi da non fare da denarvere, la metà ce l'abbiamo buttato già. No, era buono, no, di quelli di furia. Lo so, c'è quando lo compri c'è non fai a vedere agnelli, uno ho comprato, uno me l'avevo regalato quelli che ho detto la campagna, e ne avevamo cucinato un metà, e uno e mezzo che le quarantene, noi che siamo soli, il più mandiamo gli antipati, tante queste cose qui, già, poi c'erano i zamponi, alle fette, e ho fatto un po' di calamari, queste cose qui, però come stanno, non è che sono noi il maialetto perché mi avevo detto lo cuciniamo, mamma mia che cosa hai già, fila già. Bisogna che quando la madre ma fa la forza che rimangano te, perché se non si fa con pizza la mia, quindi c'è anche le mie, ma c'è anche la però, se fa che non cazzo. Non sei un buon gustaio Gianni, non sei un buon gustaio, io preferisco più l'agnello che il porcetto, No, ma io, ma che l'agnello, non, mi cucinava la cordula, quelle cose, dico quelle cose le mani, di queste cose, cioè, Però sei buffato. Questo che ti mangi, però anche le macellerie arrivano questi camion dei carne che non è nostra, che non è sarda, e molte volte io li vedo pure lì. Non sai che avete mangiato il microfono, passavano puinta. Riprendi la tua vera. Io l'altro giorno già ho mangiato una cosa semplice, però fatta nel cammino con lo spiedo elettrico. Abbiamo fatto una coscia di pecora spaccata, messo l'aglio dentro e fatta arrostire. Poi passato il grasso, lardo passato sopra, ma devi sentire che squisitezza che era. Sì, di una volta mi cognati mi ero cucinato, adesso già, solo che non c'è il cammino perché mi ha pensato anche. Ma cosa ti piace a te del Borgetti, il boccone del prete, o già? Mangiarmelo io, cioè, mangia lui. Io del porcetto mangio la testa, la codina e le zampette, basta. Chiedigli se gli piace il boccone del prete. No, se lo faccio in garage, lo so, ancora ultimando, lo mettere, ogni tanto non pigliamo le anguille, a proprio le piacciono le fatte, però una non ce la facevo, mia madre, è tutto il gusto per... capito, però, capito, quando molte volte braccione fatte, adesso qui le ho non qui a... Se lo corro in forno della cucina, non escono come quando tu le cucini sulla graticola, la graticola è tutta un'altra cosa, è giusto e bene. Papa, a me adesso di questa cosa qua non ne posso mangiare né carne rossa né nulla, mi tocca mangiare carne bianca e basta, coniglio, quella roba lì e altra cosa, però quando non potevo mangiare mi facevo fuori quasi 3 bistecche al giorno. E salsiccione? E quello tu attacchi di lì. Parrato. Io proprio mangio solo la carne bianca, dici. Cacchino. Di piccolo. E c'è... dunque. 4, 5, 6. Vabbè, comunque, non l'ascolto da pagare gli altri. Gianni Cap... Eccolo! Parte del porcetto, ti piace il boccone del prete? Ma quello del pollo, il pollo non lo faccio dire, altro quello del pollo è il porcetto. Che parte, diglielo a Gianni Doppio Rum, che non lo sa, che è poco uscito lui, diglielo tu. Oh già, non è chi proprio qual è se. Lo so. Un calaburo, Ok, no, ce lo mangio, con rispetto a tu. Sempre... capito, non sono mangione, però le altre cose tu sa cosa mi piace, hai capito, sono più per sa cosa la che sarà come sa cosa liquida ti piace, ma proprio quello che ho fatto la cosa nota che sapete stanno, sono proprio misero facendo passa tutta fare, lo diciamo che prima col camminetto mi compravo lo zemino, ogni tanto adesso niente, lo... però qualche cosa in garage glielo faccio, piccolino, no, lo sai, da quando sono andato a 2000 già sono, diciamo, forse qualche po' di glicemia in meno ce l'ho. La glicemia è alta. Sì, ma me lo immagino già, cioè non è facile i controlli, perché se mia moglie li ha fatti, certo c'è il colesterolo alto, ma in maniera, mangia regolarissimo, ma il colesterolo comunque già è alto, detto, il medico, anche gli specialisti, cosa ha? E quindi gli hanno messo, lei a Natale non mangia, a mandica, in Natale si è una volta e sanno, e niente, dico, no, ma io mi va proprio, stavo parlando con il bambino, anche 3 o 4 chili già, cucinavamo, poi la parola è una chiamata, simbolico, la sala in cui, poi appunto, si la fondata, allora, sempre di una volta rimettevo, però adesso sul camminetto, no, niente, non sono, dunque, se me lo mettiamo in tutte quelle cose della lavatrice, che la mamma con la graticola, e lo metto in quel peso di piazza, che c'è dietro, con la carbonella, no, non in garage lo faccio, no, non manco per ammuffarmi, con il giusto per fare qualche bracciola, qualche cosa anche con amici, lo piatto, quindi già ne sa cosa il mio padre. Gli piace quello che gli piace di più. E lui già. faccio che mangio? Mangio la testa, la coda e le zampe. Non mangio altro. La testa ti mangi? Anche l'occhio. Del pollo? Ma che del pollo? Io sto parlando del porcetto. No, ma il papà mi ha detto che ho detto che il pollo già. No, e anche io nel porcetto mangio solo i piedi e anche dell'agnello. No, il papà mi ha detto che è il pollo, mi sembra. Dove c'è attaccata la coda, Sì, ok. E, ripeto, eravamo piccoli, con mia sorella ci addufferravo. Cucinava il pollo, mamma, e anche lo succhiava. Figuri da raimisi. Ciucchia, ciucchia, ciucchia, tu ne ho grotte. No, tutti e due li volevo, e allora tu si chiamava il mambo, alla distanza stava sempre sbarriando. Ciucchia, Antonio, lascia stare la birra che ti fa male. Un attimo di bianco. Ma un attimo di bianco, già, perché tu sei in un bianco, vite. Oh già, Capri 2, lo sai che hanno inventato una macchina nuova che c'ha i cinque incorporati? E dimmelo, così me la compro, una dubbione. Hanno inventato una macchina nuova con i cinque incorporati. Sì, la acquistiamo, se non molto costa. Costa un po', costa un bel po', però non c'è problema, quando c'è la neve, con quella puoi andare tranquilla. Stai prima del burro. Ma mi affaccio, mi hai capito, Giuseppe, ma con la porta, sta bene qui al caldo, non hai capito, non da pronto, devono qui in piazza, arrivare una misera, ma ce lo facevo anche io quando avevo qualche anno in meno, però poi. E sembrava fare 85 anni. Le mani che non volevano mantenere. Ma si li avvicinava. Ma è Cammino. Si chiama il Cammino, peggio anche. E già vecchio ricogliente. Viene come ne fama anche noi. È lui che si piange addosso. Suino, quanto. Se per un bidone suino e mi ricordo nell'81, sembra che avrà nevicato. Ma tu mi rincorsa lì, l'anno è stato bello. Non facevi già tempo, dovevi studiare una simbriagera che mi visciate la mia. Ma ti vorrei che faccio un correggio, mi saluto tutti cordialmente e ti auguro buonanotte, ma continuo così. Scappa, anche per me correggi immediato, che ho problemi un attimino qua a risolvere la seguente. Ciao Gianni, ciao a tutta la gente. Ciao, ti saluto, buonanotte, alla prossima. Tutti e due allora, buonanotte, buon cuoredì, buon tutto per domani, ti riprendi, proprio riprendi per i saluti a Gianni e Antonio. Ciao Gianni, ciao Antonio, buon cuoredì, buon tutto per tutti, come andiamo avanti Giuseppe? Ciao già, buonanotte, un buon trabacco per domani dai. Ciao Antu, è lo stesso, ricambio al 100, una buonanotte, è un buon trabacco per domani, quando lo farai? Avanti Gianni, Capri 2. Ok, perfetto, lo ti ha salutato, però non ho detto, qui sono le 11:20 ragazzi miei, anche io devo staccare, non mi dormo, però hai capito, devo staccare dalla radio, mi butto così, a volte non ricevo la qualche chiamata, mica notte, ma usiamo i nomi, perché non ho problema di memoria in cammino. Ok, perfetto, riprendi con voi. Beh, qual è il problema, scusa? Vieni qua, andiamo a becci una birra e poi torni con tu, ma qual è il problema? No, no, già se la portano, già se la porta lui, pum. No, a volte che si fa qualche cosa, ha capito, gli ho detto lui. No, ma l'ha scelto lui, non le ha detto già che ce n'è altro. Apprezzare, come si chiama, sono obbligatori, altro me. Glielo metto, ma verso le mezzanotte qualcosa dovrebbe essere di nuovo qui il collo. Adesso vediamo come è impostato il servizio. E che poi ci vuole anche un come si chiama, un secondo autista, un casino a me. Questa volta a me mi dirà le cose, perché poi ci vuole anche un altro, quando supera le ore, anche non sto facendo nulla, però se lì sul posto io l'altra volta ho dato il turno a mio figlio. servizio. Cioè, queste sono belle cose. Beh, abbiamo firmato 100 euro di questi voucher, quindi come si chiama, che lavoro occasionale, ma quello no, come si chiama, la pediglia che comanda, come si chiama, il tachigrafo, il padre che sia alla guida, però come capita, la cercavo, è partito all'una meno un quarto, e dopo entro mezzanotte, non l'ho trovato, bisogna che, capito, perché lì a Toledo, a Bucare, io, se fanno il fuoco lì, dove sono andati, lo fanno di notte, e quindi, hai capito, a mangiare e a bere. Vabbè dai signori, io vi saluto, dai, faccio quelle tie, vi auguro una buona notte e una buona giornata per domani e alle prossime, dai, se ci sentiamo, dai, ciao ciao, quelle tie per me. Sì, ciao, alle prossime, non mi vedo un po' di buon tutto, buona dormita e alle prossime. Ciao Giuseppe. Milano, mi dio, va, buonasera, ciao per la cassa, la 48, su una barca di soldi. Auto comprati, ho detto, no, come ti do il mio, te lo scendo, non ti dico come te li usi, così come stavo dicendo anche a Tovello stasera. Niente, ma non ho fatto sapere che ho respinto, ho attaccato si era. La donna su culo, ha fatto lui là su culo, il culo lo usi da lei a me, a me. Esagerato, tutti questi maschi e femmina, qual è il problema? Alleluia! Se te ma tutto frega che ripeti gli apparecchi, lo sai che gli apparecchi si pagano purtroppo e per uscire bene, quindi a venderli così non vale manco la pena, non è male, la verità. C'è già, è come se lui dice 20 anni gli apparecchi, e quindi non è che le vendo, la verità. Ecco se bene hanno 500 euro, tu già lo sai, quindi dare un apparecchio che c'è un po' di anni, che c'è bene, la verità non lo va proprio a venderlo, anzi, meglio tenerlo, poi ti sarà anche l'anno, se lo vogliono, diciamo quella, va bene. No, c'è un tempo che si è fatto sopra, si è tenere bene. Però se sarebbe compra fesserie, compra, cioè quest'altro mio collega che è dei carabinieri, che ha il gruppo di portato, hai capito, me li ricordi, e anche lui, ma comprate per dire un buono, anche io ero così, io vedo il bracchino per collezionarli, ce li ho, hai capito, poi cosa mi ha preso, te lo metto, come, sai che non li ho preso, voglio comprare subito anche quello di Bandabello, però il coso io non c'ho il posto a tenerli, già lo sai come, che la casa non è molto grande, in garage non è messo, anche perché se c'è roba dentro il garage che, capito, lì di passaggio, ovvero non lo so anche scassare il coso, la roba non si muove nulla e poi c'è anche freddo, niente, e devo mettere, ho detto con lì che c'è lo prezzo, ti do anche lì, ma siamo una buttone, c'è tutte le linee qui, anche la casa, e non nulla, capito, se vuoi lo faccio modulare da qui quando ci viene, no? Perché siamo anche i quattrini, mi ha detto, sono che proprio si dico, questa è la 48 molto piccata, adesso di sentirlo, ne ho anche le tasche piene, hai capito, non è da paragonare a altri tipi, non è che mi ha parlato di un Galaxy, ma la 48 cosa ce lo mettono nelle stelle, dico, bravo, dimmi tu che se lo conosci questa è la 48 molto piccata. Paragonarlo a un vasino o a un colabrodo è sin troppo, capito? Ma che dire, mondezza è mondezza, perché è mondezza, non fanno altro che buttare dentro materiale per farlo modulare su piani che non ci sta, a parte che un apparato già rumoroso di per sé, esce con flusci, rumori, insomma una sorta di colabrodo vero e proprio. Lo mettono nelle stelle i camionisti, a chi va bene, a chi lo usa per quando scende fa la cacca e se lo frega dietro. C'è gente che l'ha messo a pisciarlo il cane, fa compagnia altri apparati, diciamo così, giapponesi, cinesi, l'ultima generazione, giapponesi non ci sono più, che sia ben chiaro. Adesso c'è la Cina, tutta mondezza, tutta porcheria, tutta brodaglia, capito? Tutta brodaglia. E quel BSX vuol dire brodaglia selezionata in incognita, quel BSX, uno schifo, tutta mondezza, avanti capri. Sì, no, io ce l'ho avuto come autologo nell'83 dalla BBC e facciamo un po' di ipotesi, ci ho modulato, hai capito, poi è nato Claudio e diciamo che la notte non dormiva questo bambino e tendevamo del tutto per non fare il minimo corno, avevo messo una scaglia, avevo tantissimi apparati, però la portero perché ce l'avevo messo alle scuole, però normale a me l'apparecchio anche mi piaceva averlo di sé e anzi me lo cuo, se lo trovo me lo compro pure, però ripeto, non era tutto quanto questo mondo, però l'avevo lasciato, non era prima modificato per carità, quindi questa è la fase, qui c'è questo tecnico che li modificava, che faceva, di dove c'è il doppio coso, quest'altra cosa, di là, però se uno c'è una cosa con il modulare da casa, si mette uno stato impresso, io qua mi metto un'apparecchiatura indifferente, capito? Io prima non ne ho comprato perché con l'Ezio ho imparato a prendere tre canali, io sono benissimo, però dopo me ne ho preso uno, un altro, anche l'altro, un Icon, c'ho un ricevitore, c'ho un UHF, c'ho un... adesso possiamo anche fare le banda, però niente, lo guscio che non muore in oggi aereo, ma che ne ho con guscio o male, ma la sapete su mattine, che esatto, ti lascio questo, dopo non c'è dopo tu, ma te lo porto, e non so se mi porto tutti e due, ma a me il tipo so che li porto in cosa usarlo, tu cosa pensi? E poi io che farà due, io va, capito hai? C'è roba molto più sofisticata, c'è, hai capito quelle cose, però anche questo è chi si no, quello l'ho usato, invece a quanto sono anche riflettori, dammi conferma tu, io va che sei del mestiere. Tutta mondessa e te... qualcuno della versione Vic era simile all'Alan 8001, l'Alan 8001 l'ho sopportato per anni e poi l'ho fatto sparire. Tutta roba, cioè, da Made in Cina, li avessero fatti bene, il problema è questo, il problema, quello che non si capisce, è che non li fanno bene, proprio perché è Made in China, il problema è che hanno rovinato tutto, capito? Di americano non c'è neanche la scatola, non c'è più niente, capito? Sono tutti preservativi cinesi. Ma prima c'è un bug, come si chiama, se non era male già attore, la radio, non era buono, hai capito? Ma che mi ha già usato, ma c'è attore subito, hai capito? Non è tutto quanto, parlando del discorso della pace che c'ha un trasformato in modo attore, come tu che fa, hai capito? Può diciamo affiancare un'apparecchiatura da radioamatore perché in pace ce l'ho come caso non so come era capitato nel giorno qua, devo comprare quello di CRC a spruzzarlo nel commutatore dei canali come erano fermi, hai capito, fa quel giochettino lì, però funziona perfettamente perché ripeto ce li ho tanti anni, infatti dove ve lo fa passare non andava perché è interrotto da qualche parte, in altro degli altri andava e alla grave, poi c'ha anche il compressore, quel pace, confermi, no? Sì, vabbè, è intrinseco, sono apparati dotati di certe funzioni che poi hanno tirato fuori su apparati radioamatoriali e hanno messo il pulsantino, qui invece li mettevano già internamente da allora, in un certo modo, perché come dice Neri Unini, il professore dice sempre, non è, dice, è facile modulare in SSB, provate a modulare in AM, e ha ragione, ha perfettamente ragione, che voi, è 4 volte la potenza in SSB, così è, la legge è quella, capito, e poi bisogna saperli modulare. No, il problema è il compromesso dei progettisti di oggi con questa storia degli SMD, apparati che si bruciano, i cambi che non li trovi più, fanno partite di 5.000 apparati, poi buttano via tutto nella mondezza, poi a ricomprarne altri, poi è inutile che li ripari, intanto il progetto non è riuscito, pure testa di cazzo il tecnico, dai. Così no, ma il primo è andato non la grave, no, io il pace, io non lo so perché non lo dovevo dire di prima, c'era questo mio zio, adesso diciamo, adesso mi fa sorso, dei primi, infatti è lui che mi ha incultato nel 72, diciamo, modulando da come si chiama suo, col baracchino, e già aveva il terzo, il puma 23 canali, cosa è successo? In casa non ci aveva l'alimentatore, le danno questa roba che è questo, quella lì, la prima fa costruita lui, per la sbaglia aveva fatto da noi, e è stato mandato a riparare il baracchino, allora non è che sa, e c'è stato un bel po' di tempo, allora quest'altro amico nella cognata mi aveva prestato un pace 123. La macchina è appena quando vuoi modulare, perché con la macchina della Blizzard in casa, la metteva in un punto strategico dove l'antenna si riusciva e lui si andava a dormire perché faceva il metro notte all'epoca. E modulando, sto già ma con le acquistatori, adesso non lo faccio, sto già a vino qui e là. Ho detto, ma prima non usciva a mattino, qua sotto il pace 123, medio bug, come radio era una roba molto superiore al Tersipson, hai capito? Mica il Tersipson non aspetta, il 123 era una macchina, infatti poi avevo avuto modo di ascoltarlo, la gente che ce lo aveva, avevo una modulazione, poi me l'avevo comprato dopo il KP2 e mi avevo comprato quello, e è andato sempre bene. Io posso solo dire una cosa, che qui ne ho provato di tre maniere, e questo non scherza, questo 160 sì, caro mio, è un apparato da rispettarlo veramente, prima di tutto per la realizzazione interna, perché un digitale sintetizzato di quegli anni è tremendo. Un'altra cosa ancora, il 166 è stato oggetto di film anche, a quanto ho visto in internet, per quanto abbia potuto vedere. Oltretutto è un apparato veramente americano, è costruito in America, non in Uri, come certi Mondezai che realizziamo adesso, che sono fatti per rubare, e io questo lo devo dire, perché ho sputtanato tanti di quei commercianti che ce n'è da prendere a calci nel culo. Perché se qualcuno non li sputtana, finisce che la gente ci crede. E poi vedo chi ci casca in quegli apparati, perché poi li butti via. Arriva il giorno che li butti nel secchio della spazzatura, perché non servono come prestazioni. E oltretutto costano un sacco di soldi. Invece prima li facevano perdurare. Questa era la chiave più importante. A te ancora, capi? Sì, infatti, qualche numero, diciamo, che non era molto competente, faceva parte dei finali, però perché partivano, non facendo male, perché non attaccava l'antenna, schiacciava la cosa con il postazionale, e capiva la pressione, si scavalciava per quello, poi ogni altro, colui non riceve, però c'è qualche cazzata, fare cioè, un pace 2003, che monta il microfono della Scappi, monta il manuale, e quello ce l'ho perché mi è stato regalato all'epoca, e l'ho detto, me l'avrei regalato Betta Verde, che è morto, che me ne scolo, ce l'ho sempre nella vetrina, e quello lì, anche quello lì mi ha detto che non me l'ho parato, e ho avuto modo di ascoltarlo, perché ce l'ha fatto Kamikamia di Uzieri, che anche lei è morta, poveretta, che aveva fatto leucemia all'epoca, è durata, forse durata con le trasfusioni, e voleva con questa apparecchiatura qui, e non dispiaceva, sempre in pace, ma te l'ho controllato, non c'ho qua, adesso c'ha dei circuiti che fanno paura, adesso tu se vai a comprare un baracchino, o a Sassari c'è Grassi che vende i baracchini, queste, però lo apri, Dio fa, non c'ha nulla, il circuito non ce n'è. No, allora il discorso è questo, che fanno tutti nei SMD, non vedi niente, è chiaro? È chiaro, è tecnologia altamente integrata, il problema è proprio quello, prima di tutto non riescono a dissipare il calore del loro funzionamento, gli stessi componenti, secondo sono apparati che dovrebbero essere progettati diversamente per rendere meglio, però allora diventa oneroso, capito? Quindi scendono a compromessi, li danno in mano ai cinesi e realizzano i vasini per gli Yorkshire. Il problema è questo, non sanno di nulla, è roba sciappa, capito? Mondezza, no? Uno può cantare quanto vuole, ma è mondezza, e la mondezza, la frutti la mondezza, perché poi uno non è che compra gli apparati per stare sempre lì a rompere i coglioni di palazzione, capito? Infatti no, ma prima noi ho fatto anche vedere, non ho fatto aperto, guarda, ho i turistari, partiamo dal transistor del preselettore, al transistor dell'oscillatore locale, al pilota e poi andiamo al finale. Il paracchino si vede, capito, solo sullo stadio di trasmissione c'è una barca di roba e hai capito, per non parlare poi della parte ricevente che è ancora molto più complessa, capito, e quello lì io, diciamo, soprattutto nel lavorare non riesco, diciamo, a capirci molta roba, però vedo in un baracchino transistor se il baracchino è complesso oppure anche all'epoca c'è, cioè, il baracchino infatti, capito, così alla carlona, però i baracchini che ho io sono tutti fatti con criterio, hai capito, ti posso dire che facevano le cose invece adesso un attimo, anche l'umuria rientra la tua lì, avanti. sto scendo? Bene, male, come sto scendo? Sono un bel che non uso quel tappareggio. No, che va bene. Meglio così, sono contento. Aspetta, mi sto vedendo perché sono aperto e non uso la retta, quindi. Allora, lo tieni questa là. Thank you.